un po' se c'è qualcuno in ascolto qui sul Canici, c'è qualcuno? CQ, ma Scorpio, buonasera, frequentizzato su questa frequenza della banda cittadina, vediamo io. Oggi c'è entrato un film, ah no, le 6 sono, e vabbè, sono tre fuori, ho fatto commissioni, poi sono andato a Ocean, ho ritrovato la giacca che era scivolata dal carrello, una giacca di nylon tipo bomber, simil bomber, dai. Sono contento di averla ritrovata, perché se che trovavo il povero se la prendeva, eh? Se la provava se la prendeva, eh? Meno male. Sono arrivato adesso, ho trovato parcheggio a 30 metri da qua e sono contento. Cosa vuoi di più dalla vita? Infatti, un lucano. Un lucano, come Claudio che abbiamo parlato in due quasi. Ho detto sei tu poco fa. No, dove, quando? Sono arrivato adesso, me. Non avevo radio, non avevo niente appresso. No, facciamo di tu. C'era un bip poco fa, però se a me non chiamano per nome io non rispondo a nessuno. Non mi chiamo né bip né fruscio. Buonasera a tutti. Eia. Buonasera a tutti. Fra poco mangio, sono le 6:05, fra quarto d'ora, 20 minuti da. Bene, bene, una bella serata era, per fortuna ho ritrovato questa specie di bomber da Ocean, che certo non era una giacca di valore, ma c'era affezionato, e l'ho ritrovata, me l'avevano messa alla palla. Ho anche detto, guardate, nella tasca destra c'è un pacco di fazzolettini e un biglietto del tram usato, e infatti l'hanno riconosciuta. Ti chiedono, no, le cose, no, per sapere se è tua o se stai cercando a gratis oggetti smarriti. Allora ti è caduta il carrello? È caduta a mamma, veramente. Allora, sì, sul, sai dove prendi, dove metti le mani sul carrello, no? C'era la giacca di mamma sopra e anche la mia. Siccome la mia è in nylon, no, tende a scivolare, manco se ne accorta. Andiamo in macchina, ha detto, la mia giacca dov'è? Sparita. E ho detto, ormai la troveranno quelli che puliscono i servienti. Ieri era caduta, infatti l'avevano messa da parte e va bene. E va bene. Caro Natalino, sono passato davanti a casa tua. Solo che non sono venuto a trovarti, se non mi contagi. Ah, che avrei ancora i postumi. Ah, c'ho paura allora. C'ho paura, sì. Ti volevo chiedere il filtro indietro, ma poi rimani senza modulare, però andata lì, ordinatelo. Ho detto i telefoni, chiedi se te lo manda il contrassegno, se te lo manda è già fatta la cosa, no? È una cosa così semplice. Manda, farlo con la carta. Ma tu te l'hai poi fatta la carta prepagata? Sì, adesso tutto a posto, devo solo caricarla e però stamattina sono uscito per ritirare la batteria col testo, perché sono più di due settimane che non la mettevo in moto. Una bomba. Ah, per caso hai comprato il tester di Lidl? No, con un multimetro l'ho misurata, ho misurato i volt da ferma, poi in moto e poi con le luci accese. Ed è una bomba, non si mi va la dinusa. Buono, buono. Sì, a me praticamente il mio tester, come il primo grande, mi si è rotto il puntale. Non so se diano i cavetti di ricambio col puntale. Quindi da lì l'avevo preso quel piccolo accessorio in modo da lasciare l'ufficio in macchina, capito? Che il tester mi serve a casa. Lì rimane questo aggeggio che ha già i morsetti proprio per la batteria della macchina e a LED. E bene o male ti fa capire lo stato della batteria nonché dell'alternatore. Va bene. Ah, Natali, se ti interessa, guarda che stanno dando quella videocamera da macchina, no? Io l'ho pagata 30 euro circa, la stavo dando 15 euro da Ocean e ti danno, che questa videocamera, la batteria, tutti i cavetti, per accendere i sigari, per tutto ti danno. 15 euro, 14,99. È bella così. Lo so, se non guarisco è un casino. Ma lui non ci viene, non ha visto che ha tirato dritto, ti è passata che ti miro un contagio. Sì, se vuoi te la prendo. Devi comprare solo una scheda micro SD, la puoi prendere o da 16 giga o da 32, ma conviene la 16, tanto quella, sai come fa? Appena accendi il quadro, il motore, inizia a registrare. Quando spegni il motore, che togli le chiavi, si spegne, no? E registra in loop, praticamente quando ha finito la memoria, comincia a cancellare il file più vecchio, capito? Registra all'infinito, non... sai, così se passi, se serve per incidenti, no? Che se ti dicono che sei passato con rosso, invece quella documenta tutto, quindi non si scappa da lì. Cioè, poi ti danno anche l'attacco a ventosa per il vetro, tutto ti danno, tranne la scheda SD, quella costa 15 euro la scheda da 16 giga, ok? Se ti interessa dimmelo, perché sennò poi se le vendono tutte. Vai Claudio. Rispondi Natalino. Come? Ripeti Claudio. Volete Natalino a rispondere? Non è convinto. Devi spendere 15 più la scheda. Senza scheda non è che la puoi usare. È sempre meglio averne. Non c'è che trovi qualche sbirro che ti va a dire l'hai passato col rosso. No, bufamelucci. O qualche incidente, ricordati, perché la prima cosa che ti dicono all'incrocio è ti dicono che si è passato il rosso. Anche se c'hai ragione, tutti dicono che si è passato il rosso, perché sono tutti degli infami, questi automobilisti, capito? Altro parlate in due, tu eri Natalino. Riprendi Natalino. E io stavo facendo cosa? Era mia moglie. Di qua, aggiungami la voce. Sì, però non mi ha risposto, eh. Avanti il break. È basso che? Sì, ma perché sei così basso? Mamma mia, galera. Tutta scarica, sei Santiago Nova. Ma cosa sei tra te? È un portatile. No, sei tutta scarica e poi sei Santiago Nova, è basso di segnale. Controlla bene quei connettori che c'hai lì. Qua sei Santiago 8, Capri, controlla che sennò bruci tutto. Che entri una volta in grazia di Dio, Claudio, o strappa, o è basso, o è scariche. Questo male per gente battato, Natalino mi ha risposto, ma la vuoi questa cosa o no? O costa troppo? No, non costa troppo, è che mi serviva quel tester per la batteria più che altro. Per il momento la dashcam non me ne faccio niente. Tanto non sto né uscendo né nulla. Ehi, guarda che quel tester della batteria potrebbero averli già venduti tutti, quindi se ti serve dimmelo subito, che io vendo domani con la mascherina, metto la mascherina per non essere contagiato, capito? E poi mi disinfetto anche le mani. E ce l'ho qua la cosa, come si chiama? Ti ho parlato io! Cazzo una sera, cioè. Ma che non c'ho più nulla, c'ho solo... l'abbassamento della voce e l'abbassamento della chicchia. E quello si sa. Comunque un primo prezzo è 15 euro con la videocamera, per quello che ti danno è completo. Meglio averla, certo, non è di chi si è full HD, ma per 15 euro già voi, io l'ho pagata a 30, e quindi me ne volevo comprare un'altra, metterla dietro, il vetro di dietro, eh? Vabbè, esagerato, no, sto scherzando, dai. Così vedi chi ti tampona. Sì, Giuseppe, ciao, buonasera. Giuseppe, buonasera, avanti. L'ho sentito anche qua Giuseppe, mi pone in bombante, ma è arrivato. Non risponde. E forse c'è un certo lag tra domanda e chiamata risposta. Un lag, lo sai cos'è il lag, sì? Un ritardo. Bravo, vedi che quando ti metti le cose le sai. Primo piano della scuola, certo, dovevo andare più in alto, invece sono andato al primo. Giuse, ti saluto anch'io. Molto rimbombante, ciao Giuseppe, da parte di Marco, mi copi? Ehi, ehi, è molto rimbombante, forse ti devi avvicinare appena al mic, così. Ui, ui. Bene, bene Giuseppe, vediamo se Capri ha controllato qualche spezzone, vediamo come mai. Metti l'antenna diretta Capri, se possibile, metti l'antenna diretta, non è pure di spezzoni, cosi, dosmetri, niente. Capri se sta verificando, dai. Lascialo fare, se no fa figlio. C'è un po' il garraggio, mi sa scrivania. Ah, pure una radio mentre i cristiani. Eia. Cosa stavo parlando, il console o Catalina, ho sentito un nome simile, o il Comstat? No, il console primo che l'avevo dato io, ma se non lo usa, una bella radio quella era di Mario Mauer, l'ho dato io per il fatto non lo uso, però deve usare anche lui, se gli ha attaccato il pane più 3, ma deve essere il microfono che tira fuori tutti quei rumori strani. Aspetta che faccio una foto un attimino, no, ti volevo far vedere il frequencimetro dedicato a questi apparati, e praticamente questi nuovi 3009 rispetto ai vecchi hanno una presa posteriore a, mi pare, 6 poli, e poi attaccare il frequencimetro dedicato, e lo vendono anche con la staffetta, tutto, mi piace, te lo faccio vedere, un attimino che faccio la foto. E ce l'ho anch'io su questa 3009, infatti non capivo che cos'è quell'attacco, per il frequencimetro esterno, aspetta un attimo, mi stanno chiamando. Ehi a Claudio, un attimino faccio la foto, che non riesco, mi ci vuole un rialzo qua, vediamo, vai Natalino pure, dai. Allora signor... Beato te. Ah, mi pare ce l'abbiamo noi il Mirto, una marca strana, sempre sarda però, bottiglietta da mezzo litro. Dopo mangiato, esce a vedere le 16:09, comincio a scaldarmi la pizza proprio. Vediamo se è venuta bene la foto del frequenzimetro più l'apparato, vediamo. È carino mi Natali. Questo frequenzimetro, la cifra è blu, no? Ha l'interruttore di accensione, il dimmer per la luminosità, alta e bassa, perché alta è troppo alta. Un bellino, l'avevo comprato, sai da dove addirittura l'avevo ordinato? Dall'Inghilterra l'avevo ordinato, perché ce l'avevano solo lì, l'avevo finito, in tutta Europa era finito, solo in Inghilterra ce l'avevo. È carino, volendo tirano anche la staffettina veicolare per metterlo, adesso glielo faccio vedere a Claudio. E mando la foto, anche in dettaglio gliela faccio la foto. No, non viene bene. Mamma mia, esalta, il flash è terribile, esalta tutte le microparticelle di polvere, tutte le microparticelle. Ma io, adesso vediamo come posso fare, dall'altra parte che c'è luce, vediamo. Chi è? Ehi! Chi è? Capri, sei tu? Vabbè, tutti morti. Ah, io, Natalino, Claudio, Capri 2, Giuseppe, e io tutti avanti assieme, tutti assieme. Oh signor, mi ha distrutto, chissà quanto ha abbassato di peso, non c'ho più, manco la pancia, ragazzi. Ehi, Natali. Allora, a me, io anni fa, nel 2008-2009, avevo una pancia che sembrava incinto. Proprio in fuori mi sembrava che fosse incinto, sembrava che avessi l'ascite, solo che io non bevo, quindi è tutta mangiozia, era proprio grasso, era addirittura dovevo tenere le bretelle perché non riuscivo a bottonarmi i pantaloni, cioè mi dava fastidio tenere la cintura. Poi mi è venuta un'influenza, no? Sai, cioè, poi diciamo un'influenza e due ricadute, con l'influenza mi scendevo di 3-4 kg e quindi quei 16 kg in più che avevo io persi tutti senza fare alcuna fatica. Io non stavo mangiando perché i farmaci mi avevano fatto quelli iperflessibilità, nulla, non potevo mangiare niente. Gesù Cristo mio, guarda, quello che ho passato io manca ai cani quest'anno. E anche, guarda, anche Valerio D'Alghero ha detto che è veramente brutta questa influenza. Sì, di tutti i colori ne ho passato, Marco, adesso oggi sono uscito perché mia moglie mi ha detto che freddo non ne stava facendo e sono uscito per controllarmi la macchina, che prima di Natale è stata uscita, figurati, e ha tenuto già. Eia. E la batteria, infatti a me, sai perché si era abbassata la batteria, avevo portato la macchina al meccanico, però siccome questo pezzo non ce l'avevano, l'hanno dovuto ordinare da fuori, più c'era il Natale, Santo Stefano, è rimasta nel parcheggio, diciamo, interno del meccanico, è rimasta per vari giorni. E col freddo notturno si è, come dire, si è già di carica, capito? Fortuna sembra che si sia recuperata. Invece mia zia, vedi com'è, siccome lei c'ha i soldi, lo fa vedere, no? Dice quando se le si scarica la batteria, non ha nemmeno carica batteria, dice che la butta e la cambia. E magari è solo il freddo che l'ha un po', quando rimane un po' ferma scende di carica. Ma ho detto, ma perché un caricabatterie non c'è? No, non ne ho io, quando si scarica la cambio. Vabbè, contenta te, perché una cosa è che sia un po' scarica, una cosa è che sia proprio da buttare. Io questa l'avevo messa a febbraio 2015, quindi fra un mese compie 3 anni questa batteria ed è una Magneti Marelli. Quelle sono buone. Chi è che chiama Ola Ola? Come di Splatter? Vedi se era entrato Claudio. Claudio, ci sei? Ehi Marco, mangiando stai? No, ancora no. Ti stavo chiamando, mica ti mando un paio di foto. Ti faccio vedere il frequenzimetro dedicato a questi 3009. Ho detto, l'avevo ordinato dall'Inghilterra perché non ce l'aveva nessun altro. Le avevano finiti tutti. Ma e te l'hai preso tu? Cioè, te li vai? No, io ho visto l'attacco al 3009 perché c'ho anch'io il superstar. Ma non capivo che cosa era. Capito? L'attacco praticamente per attaccare il coso, il frequenzimetro esterno, così è, quello che c'è dietro a 6 mi pare, a 5, quant'è? Sì, sì, esatto, c'è un cavetto suo, adesso ti mando le foto. No, sai cos'è, quando in estate andavo in con l'altro 3009 che ha tutti i canali, e lì per fare i DX ti parlano frequenze, vai lì, vai là, io non me le ricordo a memoria le frequenze, perciò l'ho preso, solo per i DX. Quando mandami la foto quando ti arriva anche di quello, io non lo uso il 3009, aspetta, c'è un troppo alto di latte. Io non lo uso il 3009, ecco, lo userò solo l'estate se c'è preparazione del 45 e basta. Però mandalo questo frequenzimetro, vediamo se è una cosa bella. Ma ti è già arrivato? Oh, questo ce l'ho da un paio di anni, Claudio, non esiste più. Quando l'ho comprato io era già proprio fuori produzione, l'ho preso dall'Inghilterra un paio di anni fa perché poi non le trovavi più, adesso non esiste più, non lo trovi più da nessuna parte, se non che, cioè al limite usato lo trovi. Aspetta, allora 1, 2, 3, no, sto mandando le foto. Vabbè, ecco, piano adesso arrivano. Poi pensavo che si poteva comprare, capito? Potrebbe essere interessante. Messo lì da una parte, quando lo uso le attacchi anche il frequenzine. Va bene, ecco qua, è arrivata. Aspetta, le guarda. Guarda che bello. Minchia che bello, vero? Bello veramente, Diciamo che ci sta meglio sul 3009 il display blu, capito? Perché è blu come il coso. E praticamente ha un interruttore di funzionamento e poi il dimmer, luminosità alta, se è troppo alta, e bassa. Io lo lascio sempre in bassa perché alta è veramente fortissimo. Quello alta lo puoi usare in pieno sole quando c'hai il baracchino in macchina, capito? questo è un frequenzimetro dedicato solo ai 3009 e praticamente viene collegato direttamente al cuore della radio, capito? Cioè da in sulle medie frequenze, mi capito, è collegato, cioè non è una cosa che mette all'uscita l'antenna. Poi che sia preciso, vabbè, quello è un altro discorso, non lo so quanto è preciso, è sempre roba commerciale, non è roba professionale, però insomma, ce l'ho da parte, è intanto l'attacco per non farlo guastare, capito, per un utilizzo. Antonello, vieni 27, cosa ola ola in PMR? Prova già, mamma mia, e il microfono cos'è, il turner? Una modulazione strana che c'è. No, molto bello Marco, è molto bello veramente. Molto bello, il mio è celeste, capito? Stesso colore di quello, quindi andrebbe alla grande. Vabbè, quando lo vuoi dare avvisami. Bello, molto bello veramente. No, pensavo che si potesse comprare subito, capito? Ti avrei detto di ordinarlo immediatamente. Va bene, va bene. Io lo sento molto strano a capri, tu come lo senti? È un bel a voci, un bel uvu. Non lo so, capri, fai un passaggio, parla normale, aspetta, anch'io sto parlando fuori, parla normale, come sto parlando io, prova un po'. Ancora devi abbassare, sei troppo rimbombante, abbassa ancora. Confermo. Abbassa, potrebbe andare, ma è molto cupa, ma cupa, mamma mia. Ecco, prova a parlare così, così è meno cupa, lasciala così. Però non la toccare come livello microfonico perché sennò è troppo alta, capito? Riprendi, ma Natalino non c'è più. Sono qua. Riprendi, di qualche cosa, la voce sta migliorando. Ma sembra di sì. E già me ne accorgo io, stai migliorando. Piano piano, mi arrivo, ma ci viene la accorgo, cazzo, a me, guarda, hanno la voce lì. Per carità. Niente, già me ne accorgo che stai migliorando, ti ascolto molto più chiaro con la radio, quindi sicuramente già stai migliorando. Sì, già, molto cupa, però dai, è migliorato, riprendi Marco, capito? Molto bello, veramente molto bello, per il superstar è eccezionale quello strumento, ed è anche grandetto, è della misura della radio. No, guarda la radio con lo frequenzimetro shop, è piccolino, guarda, credo che sia largo il frontale, non più di 10 centimetri, intorno ai 10, guarda bene, guarda la foto del baracchino col frequenzimetro sopra. Sì, vero, sì, c'è uno spazio, sì, ma va bene, che aspetta, occupa quasi tutta la radio, no, ma è bello come figura, poi così celeste sul mio ci sta proprio molto bene, perché io il mio celeste sia il coso dei canali che lo strumento, capito, perché Colt è stato modificato così. Aspetta, per dirlo tu che è carino, eh? Eppure roba da baracchini è sempre. Allora ti spiego, quando la CRT France ha fatto i 3009, con quell'attacco lì ha fatto anche il frequenzimetro per quelle radio. Poi come sono spariti i 3009 CRT France perché ha cessato la produzione, li hanno venduti tutti, sono andati a ruba anche questi frequenzimetri, capito? Non ne trovo in giro più uno, a meno che non sia usato. Comunque questo frequenzimetro l'hanno fatto, vabbè, la CRT l'ha fatto blu, prima ancora, quando aveva i 3009 con le cifre, cioè l'hanno fatto prima ancora, l'hanno fatto verde, a cifre verdi, e certe marche lo fanno a cifre gialle addirittura, tipo, sai che cosa, tipo il Pluto, ti ricordi con le cifre giallile, insomma, l'hanno fatto varie ditte, adesso purtroppo no, al momento non lo fa, non lo produce più nessuno, non lo vende più nessuno. Sì, vabbè, lo so, io apprezzo le cose belle, quello è molto bello perché ci sta bene sul 3009, ti dà la possibilità di avere la radio col frequenzimetro anche esterno, capito? Sì, molto bello. Fatemi 2 minuti da mangiare il cane, riprendi Capri. Cappa, allora il volume adesso è giusto, però è cupa, ti dirò, è abbastanza cupa. Sì, per non dire molto cupa, però si capisce. L'importante è parlare normale e si capisce adesso. Prima era veramente troppo, troppo forte. Vai Natalino. Sto cercando adesso, però, se lo trovo ancora. comunque Natalia, la voce è vero, sta migliorando, perché giorni fa avevi una voce da orco, era proprio orribile la voce, adesso sta piano piano migliorando. Un Connex 3009, ma perché tu stai cercando un 3009 omologato? O giù di lì? Ehi, per non avere picchi di motivazione, Emmy. Natalia, io ricordati che c'ho sempre quel baracchino, il Super Jopex 2000, col frequencimetro, cromato come il samurai, nasce omologato. Io naturalmente l'avevo messo 240 canali, però tu togli il cappuccetto, lo rimetti in un'altra posizione e torna a essere omologato. Ricordati, nasce omologato, poi il trim della M te lo riporto come era in origine e tu avresti un apparecchio completamente omologato, in più ha le barre laterali e il frequencimetro. E quanto? 100. Quello è un apparecchio che io ho pagato 250 euro quasi, mi pare da Magifon, 250, stanno 100 euro, perché mi devo togliere un po' di roba dalle palle, non c'è niente da fare. Sai perché lo sto dando un po' meno del normale? Aveva un piccolo difettuccio di fabbrica, cioè proprio è nato così. Raramente vai a accendere e non accendere, sicuramente c'è un falso contatto, una saldatura fredda, però poi fai qualche tentativo e accende. Poi ma laterale ricevevi le persone un po' paperine, un po' vibrate, non paperine, vibrate, perché al centrale recentri, ma erano appena appena vibrate, ma una cosa che un po' col tempo è passata. Poi in FM diciamo la ricezione è così così, per ricevere meglio in FM devi girare lo, come si chiama? Il clarifier tutto a sinistra. Insomma, di fabbrica non l'hanno tarato molto bene, ne hanno fatto le tarature un po' raffazzonate, però per il resto in AM è una bomba, Natalia, Tricogen, in AM è una bomba. Avanti Capri 2. E io volevo levare un po' di roba, troppi baracchini, se posso poi volevo vendere il B-Banda a veicolare Yaesu, che non me ne faccio niente. Insomma, quello che riesco a realizzare, realizzo, e questa moto la devo rimettere a posto. Batteria nuova, 50 euro, assicurazione e poi la revisione. E poi finalmente la posso utilizzare. Perché mi piange il cuore a vedere, è nuova, mi piange il cuore a vederla ferma, te l'ho detto. All'anno o semestrale? Lo so, ti costa quanto una macchina. Allora io non è una moto, è uno scooter, è un 125 della Piaggio, come si chiama? No, il Beverly, vabbè, è un 125, uno scooter. Io pagavo quindi 200 semestrale, 400 all'anno, ma era buona, mi hanno sparato certe cose, alla Unipol mi avevano chiesto 650 euro annuali, e io stavo per dire, ma voi siete scemi? Purtroppo adesso la mia assicurazione è subentrata un'altra assicurazione, e ha detto che se la assicuro da loro, dove ci abbiamo la macchina, mi verrà di più, abbastanza di più. E purtroppo io non ho voglia di girare tra sassari a cercare, insomma, vediamo, dai, vediamo. Guarda, se 250 semestrale, quindi 500 all'anno, va più che bene, va più che bene. Eia. Allora, con la prima assicurazione pagavo solo la rata annuale, tutto in una volta, però era 3,80 annuale, 3,80, era buona, però c'era un vincolo che a me non piaceva, non potevo guidare esclusivamente io, a me non mi va, perché se che ne so, se la porti al meccanico a aggiustare, il meccanico per fare il giro di prova, ospite risulterebbe scoperta e se succede qualcosa è un casino. Quindi non voglio vincoli, non voglio vincoli. Deve essere, cioè in teoria la possono guidare tutti, così voglio che sia, anche se poi non è presto, ad amici non è presto assolutamente. Ma non voglio vincoli, voglio che se il meccanico la deve guidare per prova, che sia coperta dall'assicurazione, ci mancherebbe. Adesso vediamo, Claudio è rientrato, non mi ricordo chi altro, chi si è sentato. Claudio, ci sei? Natalino? Oh raga, io quasi quasi mi scaldo una porzione, dai, se no ci va troppo tardi. E pensa, sto pranzando, quasi, sono già le 6, sono passate le 7 meno un quarto, caspita. Dai, mi scaldo la roba, poi... Dai, un attimo, mi assento, dai. Eccomi, sono tornato. Oh Claudio, mi sono allontanato un attimo per scaldarmi la roba da mangiare. Io ora c'era Capri e Natalino qua. Ehi, fai, già sono qua io. No, questo è il 440 con l'MC60. Ecco qua, questo è il DAC con il danno infiltrato al tavolo, com'è? Aspetta che c'è una potenza bassa. Ora, adesso sono a potenza alta col DAC, grigio, un grigio così, non so, sì, però ti ho detto il mio, la versione americana, proprio l'ho trovato americano adeguato alla radio, capito? Non ha nessuna scritta, c'è la scritta in grigio Turner, e boh, capito? Turner, e poi sotto c'è il coso Made in USA. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mia moglie. Comunque la modulazione va bene. E beh, come il tuo, Made in USA. Sotto c'è un pulsantino, sì, un commutatore, dai, nero, quello lì c'è. Poi c'è la scritta Made in USA e sotto non c'è altro. Poi la scritta del microfono, il mio è tutto grigio, la scritta del microfono c'è scritto solo Turner. Ok, e boh, Turner, come quello che c'ho, no? Che c'è scritto Turner 252, qua c'è scritto Turner e basta, capito? Sì, ma quelli lì ci sono tutti i Made in USA, poi avevano fatto quello Turner più 3 Plus, Turner più 3B, un sacco di cagate. Questo è grigio, dove c'è scritto sotto Made in USA, è originale, perché gliel'ho chiesto anche a chi me l'ha mandato, ma ha detto no, tranquillo che è quello originale, ma ce l'avevo già questo modello io, capito? Ce l'avevo già questo modello, poi non l'avevo più trovato e mi avevo preso quello nero, il Turner più 3, e poi l'avevo dato col Magnum, capito? Adesso me lo sono ripreso. Comunque, a prescindere, la modulazione va bene, la lascio stare così, ce l'ho a 3, a 2 e mezzo, dai. Chi è questo Gianluca? Non compro niente io da Gianluca. Lo sono comprato per i fatti miei in Continente, l'ho trovato, nuovo, anche se l'ho pagato 80 euro, va bene così, capito? Va bene, ok, allora dai, lascio scaldare un pochino il DAC, allora usiamo questa per un po' d'acqua. E li ho avuti quando modulavo negli anni che furono, sia il più 2 che il più 3, tutti e due. Il più 2, l'M più 2U ce l'avevo sull'HB23, che esce una schioppettata. E l'altro ce l'avevo sul coso lì, come si chiama? Sull'FM500S, andava molto bene. Ok, va bene. Marco, a Bisese? No, Marco che si sta mangiando. Natalino? Sto scaldando la roba ancora, sto per mangiare, dai, Natalino. E Natalino dice sempre, già sono qui, vero è Natalino? Natalino, vabbè. Com'è Marco, Turner più 3 col DAC, va bene come modulazione, la timbrica ci siamo? Di lusso, ha voglia. Comunque per questo frequenzimetro, tornando a questo, è piccolo, veramente piccolo. Guarda, se dovessi paragonarlo alla lunghezza e alla larghezza del 3009, non prende nemmeno un quarto della superficie del 3009, del dorso, è piccolino piccolino, sembra, guarda, è più piccolo di un pacchetto di sigarette, questo frequenzimetro, si chiama CRT SS, che sta per Superstar, KF Kilo, Foxtrot VI, che sarebbe il numero romano 6, CRT SS KF 6, ecco sarebbe. E vabbè, a prescindere, comunque è bello, si mette al centro della radio, è bello perché ti dà la frequenza, ti dà tutto, è bello, è molto bello. Vabbè. Avanti Natali, riprendi, ieri ti ho sentito sul 23, eri bello pimpanti, oggi sei tutto moscio, cosa fai? Cosa c'ho? Non è che mi sento tanto bene. Stamattina sono uscito per controllare la batteria della macchina, con la scusa che non stava facendo freddo, però non mi sento ancora tranquillo. Vabbè, tempo suo ci vuole, soprattutto quando poi hai avuto questo colpo così. E anche mia moglie è stata una settimana che non stava bene. È brutta influenza, maledetta. Vabbè. Capri, Peppino di Capri, riprendi. Adesso sì che sto ruminando, dai. Ci sentiamo fra 5-10 minuti, dai. Rumina. Allora, sull'F7B che io avevo dato a Mario Masse quando avevamo trasloccato, dovevo appunto darle sempre il frequentimetro esterno e poi nel casino non lo so. Non l'ho più trovato, ho controllato anche delle scatole che ci avevo su in mansarda, eccetera, non l'ho più trovato, perché a 7B infatti ci va il coso esterno, capito? Ci va il coso esterno, ho già tutto qua. E se me lo dicevi te l'avrei dato io ci avevo il 3000 e il 2000, li ho dati tutti e due. Li ho dati tutti e due, perché sono dei barragioni, il posto non ne avevo e via. Avevo fatto cambio con un radiomatore, capito, l'avevo dato a lui, con un'altra attrezzatura. Vabbè. Ehi, Natalino c'aveva il Vectronic, si era rotto il vetrino e l'aveva fatto nuovo. Dallo a lui, se ti si è rotto il vetro, già te lo mette a posto lui. Te la mette Natalino, il Vectronic, che aveva giù di terra il Salvatore. Non gli avevi messo il vetro nuovo tu, tutto il coso nuovo gli avevi fatto. Non me ne ricordo, no. Io me lo ricordo io quando eri su. Quando eri su avevi più passione, ah, non hai più. Vabbè. Marco sta mangiando, che ore sono? Le 7:05 ancora, aspettiamo un pochetto, poi alle 7:30 vado a portare il bambino a passeggio. Che mi ricordo io sì, però vabbè, quello che avevo io della Magnum era, avevo anche l'MN2000 che era commutatore d'antenna, rosmetro e wattmetro, e poi il 3000, beh. Il 3000 l'ho dato a Roberto, l'ho dato il 3000 a Roberto, l'ho dato Natalina fatta le cose a Salovagere, dell'MFG, e ho avuto anche quello MFG, ho avuto quello della Vectronic e quello della Daiwa, tutti e tre li ho avuti. Sono buoni strumenti, se li tiri bene già sono buoni strumenti. Andiamo a vedere, comunque sono degli strumenti che funzionano molto bene, no, non ce n'è problema, funzionano bene, benissimo, sono precisi e funzionano bene, capito? Però non è che chi ce l'ha se li tiene, è certo che merita, te l'ho detto, sono dei buoni strumenti, no, non ci sono problemi, va bene. KK, cosa vedi Natali? aspetta che commuto l'altra radio, che questa in fondo mi viene male a parlare, sono attaccato alla porta. Aspetta che commuto. Eccomi qua, dai, sono passato avanti con l'altra radio. Io a Cagliari non ci devo andare, io quando mi serve qualcosa dico Antonello, ti ho detto. Tu vai da Antonello e le dici, me li fai mandare da Cagliari questi condensatori, lui ti li manda. Telefona al fratello signor Vittorio e te li manda. E io già vado a Cagliari. No, a me ha fatto sempre così. Quando qualcosa non ce l'aveva, ha chiamato Cagliari, fratello di Vittorio, e me li ha fatti avere, capito? E così lì me li aveva attivati, erano tutti a mettere a posto, capito? E infatti te li ho volati a te. Però è quello eccezionale, Courier è eccezionale. Sono belle radio, hai visto il cassone che ha tre in ferro, però bello robusto. Va bene, ok. Marco sta mangiando e niente, vabbù. Natalino è che fa tende. Ho già fatto. Ha fatto il tutto. Ehi, stavo rimettendo l'altro filtro che con uno solo non ce la fa. Però disturbo, non puoi disturbare. Ehi, vabbè. Ho due filtri anti-TVI qua, adesso me lo devo comprare perché di Marco uno e me lo faccio arrivare, là. Così glielo torno a Marco, che senza questo filtro non può stare lui. Vabbè, adesso me lo comprerò uno, là. Se riesco a uscire mi carico la carta e me lo faccio arrivare. Vedi cosa vuoi che ti dica. Vabbè, là. Purtroppo sono costretto a usarlo così, oppure non lo devo usare per nulla. Sono due televisori che disturbo io e boh. Diglielo che anche oggi vengono a romperti le balle qua, mamma mia, cosa devo fare? A un certo punto il giorno che mi rompo le scatole ne tolgo tutto e metto a 50 watt. Voglio vedere se ne vedono più televisione loro. Mazzalino? Vedi un attimo. Gianni, neanche l'antenna si hanno voluto far aggiustare da me, perché gliela volevo aggiustare io. Cosa devo fare? A un certo punto, non so, quando uno perde le staffe e poi ne toglie tutti i filtri, mette a 50 watt e televisione non ne vedi ne più, perché non ne vedono più. Poi mi chiamino quello che vogliono loro, tanto già paga niente. Quasi, sono arrivata la frutta, poi c'è il dolce, il caffè, la mazza caffè, e ancora è lunga la cosa. Come dico sempre io, Natalino, non sei tu che disturbi i televisori, ma sono i televisori ad essere disturbati. Come ti ho detto sempre, se frasi con l'impianto loro, non è colpa tua. Io lo so, ma a me di disturbare non mi va, non hai visto, sto uscendo con 5 watt, ho rimesso l'altro filtro perché con uno non ce la fa. Se no mi nota lì, se rompono molto le palle, ti presto il lineare, lo metti senza filtro e loro si possono anche dimenticare la televisione finché non scendono a patti. Ah, ridò con chi domando mio, lì c'è troppo piccolo. Vabbè, così faccio ancora. Così scendono a patti, signori. Capito? Se volete vedere la televisione, allora lasciatemi usare almeno l'omologato, 4 watt. Capito? Ui, ui. Ma pensa che io ho l'antenna sul palo della TV, ho l'antenna sullo stesso palo della TV, con lineare non disturbo, anche senza filtro, da me non disturba, e nemmeno dagli altri, hai capito? Ani, l'antenna brasica, è già difficile entrare sul digitale terrestre, però quelli hanno l'antenna brasica, uno e l'altro. Ah, il padrone non vuole toccarlo, l'amplificatore, ma guarda a vedere se c'è qualcosa che non va, la metto a posto. No, no, non vuole assolutamente assalirci il padrone. Cosa vuoi che ti dica io? Quando uno ti dice così, all'altro ha giudizio per la partita a spese mie l'antenna mia. Compravo le antenne e gliele piazzavo. Nuda. Vabbè. giorno che mi rompo le balle, cazzo, li puoi vedere cosa succede. Perché ne poco che filtri metto a manetta a questo qui, con tutto a manetta, mi turbo, contraturbo, tutto. Ah, mi stai disturbando, e a cazzo se ne affuzzi, se no te non dico una fusilata, ma gli dico. Allora sono frazzichi loro, sono loro, i padroni sono frazzichi, DJ Beggio però. Ah, io non capisco, quindi se ne lasci uno di filtro che è quello di Marco, metti quello professionale, poi devi aggiungere un altro supplementare, così è Natalia. Ehi, se no io con 5 watt non ci posso parlare, devo parlare con un watt. Cazzo, se parlo con un watt già ne non intendi, hai compreso? Infatti con 5 watt c'è 9,20, no, che figura di due. Sono buone a 50. Per carità, guarda. Non riesco a capire Marco sta cosa, perché uno non va bene un filtro solo, perché due? Perché non ce la fa! Sono frasi, che razzi che sono dei misuri pure a massa, cosa cazzo ti righi a gla? Sono frasi che gli santenni, una e l'altra. Ma che se no non entrano in su, come mai gli altri non li disturbo allora? Boh. Oh Claudio. Ehi. Allora, quel filtro professionale non è, perché ho visto filtri veramente professionali per radiatori, a banda variabile, quella roba da fantascienza. Però meglio della ZG è. Allora, quel filtro attenua sulle frequenze televisive, attenua di 80 dB, nota 80 dB, non 20 dB, le eventuali spurie armoniche. Se tu, se tu attenui di 80 dB le eventuali spurie armoniche e loro continuano a pigliare il suo, vuol dire che hanno tutto fradicio, ma allo stesso tempo non vogliono che lui le aiuti, e allora gli avrei detto, pigliatevene in culo, io modulo come voglio, chiamate le scopposte e vi pagate 600 euro l'intervento, sembra che sia così, e poi vi controlla il vostro impianto d'antenna, se capì? E che sai cos'è? Quando lì è gente brutta, è gente di sassa di veccia, lì arrivano le mani, capito? Arrivano le mani, sono degli, sì, della serie uomini duri, mi, come dico io. Sai, poi se gli arrivi le mani si va in tribunale, finisce in tribunale, la cosa sempre, è sempre seccante, capito? No, sono d'accordo con te, ma arrivare a queste cose bisogna arrivare sempre a un compromesso. Io do una mano a te, tu dai una mano a me, però se lì non ne capiscono, non capiscono qual è appunto il compromesso da utilizzare, non deve stare a matanarsi un gabbo, Natalia. Cosa vuoi ti dico? Ordinate quello di a Marco, nei buoni due, capito? Metti due uguali e vedi che hai risolto il problema momentaneamente. Cosa vi fa? Tanto se non c'è come si dice, uscita a questo problema, non c'è dialogo, non c'è niente, non c'è stare a misticciare come ha detto Marco. Ordinatene un altro, guarda quello, togli quello della ZG e metti due uguali. Secondo me hai risolto il problema, meglio di così. No, ne compro uno come quello di Marco. A Marco glielo devo restituire che lo vuole, capito? Sennò ve la vi bagaggio io a Marco. Cazzo, non ci siamo compresi. Marco lo rivuole indietro quello lì. Oh. E quindi io me lo compro uguale a Marco, lo attacco qua e via. Cosa vuoi ti dica? Più di chi sono ti posso dire. Poi adesso mi fa un po' per forza non disturba nessuno, forse ne li tolgo pure i filtri, perché quando cambiano frequenza di emissione le TV si spostano e non disturba nessuno. Peggio è, peggio! No, Natalia, sai perché? Preferirei che te lo prendessi nuovo, perché il mio mi è caduto anche più volte, ha preso colpi, insomma. Sei nuovo, è perfetto, capito? Poi se non basta uno ne prendi due. vabbè, cosa vuoi ti dire? Comunque è vero, è il colmo che uno per riuscire a modulare con l'omologato debba mettere il filtro del filtro. Mai sentita questa cosa? E comunque il fatto che loro, no? vogliono essere, non vogliono essere aiutati, ma allo stesso tempo non vogliono, in quel modo li sono proprio pezzi, pezzi di materia fecale, capito? E più che mandarceli non puoi fare altro. Poi se poco a poco ti aggrediscono, se riesci a dare un calcio in faccia, li stendi, chiami i carabinieri, mi hanno aggredito. E sono cavoli loro. No, io contro di uno addirittura ho già l'esposto pronto a presentarlo in questura. Figurati, l'espostomi. E in più c'è che quel signore questurlano promosso la polizia all'anticrimine. Dove dovrebbe arrivare quell'esposto? Ma che di 5 minuti in camera di sicurezza? Non gli dà comunque un segno. Con lo straccio bagnato picchialo me, come facevano in questura un tempo, lo straccio bagnato. Sì, proprio sono, cioè proprio chi non vuole essere nemmeno aiutato e ti vuole impedire di modulare, proprio sono, non so che gente sia, devono essere proprio terra a terra. Infatti io me ne sarei fregato, avremmo durato. Poi se ti tormentano tutti i giorni, quello è stalking, capito? Se ti mettono le mani addosso o tentano, è aggressione, vedano loro. E infatti vedano loro, Savoni va. Con uno c'ho già lì, pronto, cazzo, già perché sono andato e ho chiesto il mutuo, sono andato a denunciarlo, a quello che mi ha aggredito con le parole. Fanno punire le mani in alto a chi la dichiaro con le mani in alto, la rovineggio. Sto dicendo, il giorno che passiamo alle vie di fatto, l'uraco sangurone in terra, poi mi pugno con un cuscetto e mi rubongo in mano, e lo porto a ricapù. Ci arrivo se buschi tu e rimani tu in terra. E io non penso proprio, no. Io non so manco quando arrivino i colpi, un grassone, i guglioni, i gatti, mamma mia, il buon umano, un gatto che c'hai bideggio. Non è una cosa rivolta. Prima ricordo e poi lo portare qua. Ha un grassone. E allora, che non riesce a mancare muovere, ma quando avevo versi lui l'animo studiva a risa. Ti ricordo due pugni alla bocca, cazzo, che io dico nel capo, i denti vieni i confitturi in bocca. Vabbè, purtroppo lo so come fanno lì, è tutto, te l'ho detto, così li chiamo io, dalla serie Uomini Duri, capito? Che si immolerebbero, vabbè, sono cose già dette, non voglio insistere. Mi sono mangiato il dolce e sono felice, all'8:30, fra un'ora, il caffè, decaffeinato però, ci pigliamo, vai Capri. No, pigliatelo normale, poi vieni qua che facciamo la rissa. Ma io sono deboluccio di fisico, io piglio colpi mi. Se mi pigliavamo mi cudi un buffo e mi cudi a terra. Adesso che sono debole mi. Se sono forte non fa. No, io, cioè, no, non è che sono, sai cos'è, quelli che sono abituati a farrarsi, quelli vabbè sanno a farrarsi, ma io non ho mai cercato la rissa, cioè non sono cazzo di quelli, capito, io sono una persona normale, non è che faccio la vita a farrarmi, perciò non ne so, io al massimo posso togliere quella bomboletta e farlo cieco e basta, e poi chiamare la polizia. Guà, con due dita io ti faccio scendere, due dita surumi e ti faccio scendere in terra, con due dita. Una cosa simile l'ho insegnata a Giovanna, la sorella di Alessio. A Giovanna ammazza la dea, chi se la batta ma Cuturgo è pare la confidata. Ma roba che tocchi il collo, la zona del collo o come? No, ti tiro con due dita, neanche il pugno ti tiro, senti con un pugno qua. Ti tiro con due dita e tu scendi in terra come una pera cotta. Allora in poi ti soprannomino Paimei. Paimei era quell'esperto estremo di arti marziali che c'era nel film, non so se l'hai mai visto, Kill Bill. Bill, capito? Era imbattibile, fai mei ti chiamo. E io non ne so di queste cose, io so solo quello che mi hanno insegnato, poi. C'era una mossa, adesso ti dico come si chiamava, era una mossa estrema, dice, l'esplosione del cuore con 5 colpi delle dita, cioè lì si dava dei colpi con le dita in punti determinati del torace, e vabbè, sono preso dei fumetti, no? Tu facevi 5 passi, al quinto passo ti esplodeva il cuore e morivi. Io Giulio Desia, non è tanto l'orrore che te la frigidura. Eppure lo vorrei vedere Natalino scatenato in azione. E mica io non mi incazzo, io picchio lucido. Io non mi arrivo. Io picchio con metodo, capito? Che ne sa che cosa racconca che ci bimmi? Che la giubisichita fa debbi da capo. E chi è? E io mezzo delinquentello. Che mi stavano tenendo il sette, cazzo, e io picchiando, e io tirando la fada dei bidi a capo, poi se ne fugge di moto, io cazzo di qui ci ha fatto un pezzo. No, non a te Natalino, uno ha detto con la voce vibrante, faulaggio, faulaggio. E io sono con faulaggio, via. Fai mei, eh? E to come quel film, è divertente, fai mei. Niente ti coricava, non potevi fare nessuna mossa. È divertente quel film, è tratto dai fumetti, dai, Kill Bill, c'è il primo e il secondo film. Era divertente, dai. Oh, io non mi fate parlare troppo che se no mi manca il fiato, mi scende la pressione. E mi vieni qua che c'ho la supposta. Vieni qua che c'ho, mi ho comprato la pompa nuova per la bicicletta. E lo pompiamo bene. Ma non c'è rimedio migliore al mondo dell'asino della crucca. Quello è il rimedio sovrano. Quello sì. Oi, oi. E così ha uno in via Rosello qua a me. Cazzo che l'ha venduto gradazzo. L'ha aiutato a prendere una mano della macchina, ha giocato 30 la macchina sua a te. Oia. No, no, io non sono tipo che certa risce, cazzo, mamma mia. Certo, se ti provocano inevitabile, fai quello che si può. Io personalmente parlo, no? Ui, ui, ui. Claudio, ne busca, cioè Claudio ne fa buscare o ne busca? Cosa dici Claudio? Tu sei Porto Torrese, sicuramente ti sei a Ferrari. E allora, tutti i Porto Torresi fanno pugilato. No, non gli ho mai fatto pugilato. Ho pugilato pochi giaffi. Diciamo quasi niente. Ma che ognuno si difende come può. Ti dico solo che le mani le so usare, poi. Ci può essere quello più bravo o quello meno bravo, ma già mi difendo abbastanza bene. Adesso mi difendo col cane, che palle. Una bella giornata, non c'è vento, non c'è niente, c'era un freddo ieri sera, ragazzi miei. Avevi roba pallina, i guanti, un giubbotto alto, cosa tutto non va via. Un freddo c'era, infatti, come ho fatto il bisogno, io non ho frio, io non, tu ti rendi che volevi avvalarti, io sarei lì, io a casa. E c'è freddo? Guarda, mi ha detto, cioè, ho visto per i gente di Polatore, ragazzi più o meno giovani, che fanno tutti pugilato, no? Mi ha raccontato uno di Polo Torres, che ogni tanto arrivano da sorcio tipi stravaganti credendo di fare chissà che cosa, no? Al curì, e dice che se ne tornano a sorcio con la faccia gonfia, capito? Gli fanno la faccia così a Polo Torres. Fanno anche bene, tra l'altro, lo so che cose prepotenti di andare a dire ballare. Ma a Polo Torres è nata la una bella scuola di pugilato quando c'era Baciccia Mantellini, che l'ha conosciuto i più bravi campioni di quell'era, parliamo di Francesco Fiori, Gavino Iacomini, Mario Altana, Francesco Fiori ha combattuto con Nino Benvenuti, Mura, anche Alberto che è morto, Alberto era creato proprio la scuola di cui girato, bravissimo, ha toccato un sacco di campioni italiani, campioni sardi, ne sono usciti da Polo Torres. È una bellissima palestra, i ragazzi facevano quello, capito? A me non mi è mai piaciuto, io ho fatto all'età di 17 anni, sino a quando mi sono sposato, a 25 facevo giù, ho fatto anche l'interfase a Roma per nera, poi mi sono ritirato perché mia moglie non voleva più, e basta, perché lì a Porto c'era la palestra di pugilato di giù, e basta. Mentre a Sosso non ce n'era, l'avete più girato, quindi ce ne vanno tutti a Polottosi a prendere i colpi. E vabbè, ma parliamo degli anni grandissimi che furono, però ne sono usciti grandissimi e bravissimi pugili a Polottosi, hai capito, a quella palestra. E tutt'oggi c'è la palestra intitolata ad Alberto Mura, che è morto, che era un vicecommissario di polizia. E quindi, ma molto bravo, Alberto era molto bravo, conosciuto, bravissimo a pugile. Va bene ragazzi, dai, vado a fare un po' di pugilato con Filippo, vediamo dove cacchio mi porta. Se ci siete ci sentiamo dopo, intanto sono le 7:30, 8:20 sono già. Va bene, dai, se vi trovo ci sentiamo dopo, riprendi. Natali, riprendi tu, va. Filippo, quando ti trovo ti tiro le labbrocce. No, mi cosa hai detto? Ha detto Filippo che quando ti trova ti tromba tutto ai piedi. Ah, brucia Monello. E ha detto di non lasciare la macchina aperta perché entra dentro. Viene al nonno, te mi lo dico. Mi chi c'è, mi. Abbaialo. Aggredilo. Mi, sentito là. Miglior ragazzi. Entri dentro la macchina e morsi che tutti ce li. Ah, tutte le labbrocce ti tiro quando ti trovo, Filippo. Tira. Ie. Ie. Ie. Natalino e mi. Lui. Hai già prima che è nata la banca che mi intendi? Ci sentiamo dopo, raga. Ciao. Caspita, il Quaremme. Santiago sì, è salito il Quaremme, un disturbo elettrico. Ho sentito qualcuno che salutava, forse Giuseppe. Ok. Ehi, Natali, quelli Polo Torres però sempre che fanno tutti pugilati, ragazzi, perché alla fine, già lo sai che lì è un po' lo stesso, è popolo, no? Popolino. E i ragazzi purtroppo risolvono le cose con i pugni anziché parlando, capito? Risolvono con la, come dire, con la diplomazia, capito? Le risolvono a pugni le cose. E purtroppo è così. E Marco, a te lo sai quel Puddy che è quello che porta il carro attrezzi, lo conosci? No, mai conosciuto. Quello è una macchinetta picchiando, che pugile, e noi andavamo a fare full contact di nascosto in quella palestra lì. Full contact, cosa sarebbe? È una ramificazione delle arti marziali, però pericolosa, c'è anche il knockout. Cosa ti volevo dire? Quello lì si è rifiutato di salire a fare i guanti. E fai i guanti con me. Come si è rifiutato? No, ma la società qui è pur così di burra fa dei beni. Invece Eugenio, no, quello che è venuto in pizzeria, lui fa MMA, credo che sia recente come dicevi, MMA, che è un insieme di discipline, puoi usare tutte le mosse o colpi che di varie discipline, boh. Già è roba che faccio fare io. Vedi, mi fanno a sciogliola. E io da quello lì ho il cuore ingrossato, lo sai. Perché ho smesso di colpo che avevo bisticciato col maestro e mi si è ingrossato il cuore a me, ogni volta che mi fanno quell'esame che fanno al cuore, trovano il cuore ingrossato e mi dicono lei ha fatto sport, vero? Subito si inabisa. Eia, lei vabbè non fa niente, quel nonno aveva il cuore ingrossato, è campato 81 anni, dai. Nonno non ha fatto sport, sai che sport ha fatto? La seconda guerra mondiale, il partigiano. Lui praticamente ha fatto due guerre, la seconda guerra mondiale e poi il matrimonio con la moglie che è stata come la terza guerra mondiale. Figurati. E la leppa di tuo nonno ce l'hai ancora? Perché quelli baionetta non ne usavano, no? Sì, passavano un re, rimbriagavano e andavano in cattura rasosa. L'austriaci fuggendi, come subito la panneria blu e russi, fuggivano. Oh, no, non lo so. Lui è stato, marina prima, guidava motoscafo reale, o comunque era a bordo, non mi ricordo. Poi è stato partigiano contro l'occupazione tedesca. Gli hanno sparato a Roma sui tetti, lo sai. Lui fuggendo sui tetti e quelli sparando, le sentivo alle pallottole fischiare, mi. Mamma mia, mia fifa. L'avrebbero ammazzato e ce l'avrebbero, sì, se l'avessero beccato, l'avrebbero fucilato. Io e babbo non gli ha rubato il pane ai tedeschi, cazzo, l'hanno sparato. Oh, ma ferito solo, sì. No, non l'hanno preso, catas, perché loro prendevano quando caricavano il pane dai panifici, no? Erano avvammisi dagli affetti. E c'erano queste bande che gli rubavano il pane ai tedeschi. E allora, cazzo, l'hanno dirato di Gurumitra, cazzo. Ci vedono i sugliati di Gurumitra quando caricavano i rubati. E quelli sparavano per ogni motivo, mi. Che il partigiano no, mamma mia. Che brutto periodo, guarda. Una cosa orribile. La seconda guerra mondiale con Hitler, coso, mamma mia, con Mussolini, quell'altro fettentone che a parte le migliorie che ha fatto, le bonifiche, la costruzione di edifici, perché nonna mi ha detto quando erano piccole tutte belle, ordinate, arrivavano gli assegni familiari alle famiglie del sud che avevano molti figli, stavano bene, mi. Andavano a scuola bella con i grembiulini tutte ordinate, tutto perfetto, solo che era un fettente lui, aveva fatto sparire la moglie, aveva messo a manicomio, era un fettente, poi ci ha portato in guerra, è stata la rovina totale, il caro Mussolini. E per forza, l'hanno tradito, andava a fertilità e vidi a tutti chi c'ha il gatto, lo buttavano all'aeroporto, però erano sempre in testa aerea, non erano gli altri, compreso, e tu pensavi, manco che succede per parola, via noi, non solo d'altri. È stato tradito anche lui lì, perché era una massa di magnati, la gente lì, lui. Come è sempre stato in Italia, tutti corrotti. Vabbè, comunque, un animale, una bella bestia era quello. Non avevi libertà di parola, libertà di stampa, oh, mamma mia, per carità. Vabbè, adesso siamo in un altro millennio. Speriamo che le cose vadano meglio. Adesso la Corea del Sud per tranquillizzare la Corea del Nord, li hanno invitati alle Olimpiadi e quindi ci saranno fianco a fianco atleti della Corea del Nord e della Corea del Sud. Capito? Stanno un po' cercando di abbassare la tensione, mi. Che poi questo Trump è tutto strano, ogni tanto le comina qualcuno, andava con le mignotte, ogni tanto licenzia qualcuno del FBI o roba del genere. Diciamo che questo Trump è troppo chiacchierato come presidente, troppo, non lo so, criticano tutti, non lo so. Troppo casino sta facendo, troppe chiacchiere, troppe, non lo so. Sì, lo so. Però dalla Corea da prendere con le molle. Tanto no. Perché poi in Giappone, quando passa un missile sopra le loro teste, che magari sta finendo in pieno oceano, non lo sanno mica se poi il missile va a cadere su Tokyo o roba del genere. detto che se fa quello è finito, King Yong Um, come si chiama, King Kong, è finito, perché radono solo tutto lì. E preghiamo che non ci si metta in mezzo Putin, la Russia e la Cina, se no siamo fritti, siamo fritti. Poi manco bomba nucleare li puoi lanciare, perché c'è l'altra Corea vicino attaccata. No, passano piccole testate, non è necessario usare una testata da 10 megatoni, che poi non c'è nemmeno. Mi pare la più grande da missile balistico sia 5 megatoni, però possono essere anche testate multiple. No, basta anche una bombetta da 50-100 kilotoni, non megatoni, kilotoni, roba piccola. Anzi, certe volte è più utile usare roba piccola per bloccare truppe, che non roba grande, perché roba grande proprio ammazzi la popolazione, poi no. Non va bene, non va bene. Io sto paura solo della guerra nucleare. Quella totale però, quella. Non quella, siamo fritti tutti, non trovi più niente, non trovi più da mangiare. Infatti i prepper, soprattutto americani, sono quelli che si tengono preparati a ogni calamità naturale, comprese guerre. Ci hanno sempre scorta alimentare, hanno anche strumenti per la sopravvivenza, come può essere anche una maschera antigas, per non respirare polvere radioattiva ci sono i filtri anti-radiazioni. Capito? Che bloccano la polvere, non le radiazioni. Le radiazioni normali, cioè che viaggiano in aria, non te le becchi, però almeno non respiri la polvere radioattiva nei polmoni, capito? Ci sono i filtri apposta, oppure ci sono anche le capsule di iodio per saturare la tiroide, in modo che la tiroide non catturi lo iodio radioattivo, capito? Ci sono un sacco di accorgimenti. E c'è gente proprio che è preparata a tutto, lo sai, poi in America sono pieni di armi fino al collo, quindi hanno la riserva alimentare, il bunker antiatomico, le armi per difenderlo, e hanno tutto un impianto di filtraggio speciale, capito? Sono pronti a tutto, alcuni. Alcuni invece non si rendono conto nemmeno di cosa succede. Infatti li vendono al supermercato, da Walmart, i bunker antiatomici. Poi devi fare, a parte scorta di elementari, molta acqua, sia da bere sia per lavarsi. Esistono le pasticche sia per depurare l'acqua e sia per conservarla, proprio per conservare l'acqua per lunghi periodi, in modo che non faccia muffe, capito, che non diventi cattiva. Adesso c'è questo ex generale dei carabinieri, generale Antonio Pappalardo, e ha delle buone idee e tutto, e invece quando fanno le votazioni non bisognerebbe andare a votare, addirittura invece di unirla all'Italia, lui vuole fare come negli Stati Uniti, dei stati federali. Avevo sentito, mi avete già accennato a questa cosa, e dice cose anche abbastanza, cioè controcorrente, anche veritiere però. Certo, e la legge esiste, il cittadino in flagranza di reato può arrestare chiunque. Sì, me lo ricordo, c'era un articolo particolare per cui quando tu assisti a un reato puoi fare la funzione di pubblico ufficiale, puoi fermare la persona, insomma puoi bloccarla, fermarla, trattenerla, e se lui tenta di aggredirti o di scappare, è come se avesse o aggredito un pubblico ufficiale oppure stesse tentando la fuga, capito? O l'evasione dopo l'arresto. Solo che nessuno lo fa, perché bisogna avere le palle per fare quella roba lì. Infatti a noi ce l'hanno chiesto all'ospedale a Meagiano, quando abbiamo salvato quello che stava buttando la ponte, e hanno detto che si era girato. così almeno lo denunciavano per aggressione a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. No, certo non è, perché a seconda di chi ti capita ti può ferire più o meno gravemente, non lo so. Bisogna avere le palle per fare una cosa del genere. Se ti capita una persona veramente pericolosa, mamma mia, anche se disarmata può essere letale. E vabbè, discorso lungo. Una volta sapevo l'articolo di legge, ma adesso non me lo ricordo più qual era quello lì. Non lo ricordo l'articolo di legge, dai. Articolo 183, codice processiva penale. Oh, questo Pomponio, e vive in PMR Pomponio. Non lo so cosa sappia il PMR di magico, ma è una cosa che non si crede. Vieni qua Antonello, vieni qua, lo so che stai ascoltando. Pomponio è un briacone pratico. Adesso ti dico tutti colori così lui viene qua. Eia. Ehi, Pomponio apprezza un po' troppo la birra, dai. Lui va a bottiglie o a lattine. Un po' troppo apprezza. Che te devo dire? Non disdegnando le casse. Come le casse? Di birra. Ah sì, lui va a casse. Capito? Quello inizia dalla mattina e finisce la notte. Come si fa? Vabbè, io guarda, mi sono bevuto mezzo bicchiere di spumante con la pizza. Mezzo bicchiere di spumante. Non di più, perché sennò mi fa... mi viene la testa vuota, insomma. Infatti, io nulla. Mi ho mangiato due uova al sugo. Marco, beh, che ne fa? Un attimino che mamma sta mettendo la sua pizza a fare, l'aiuto un attimino, dai. Un attimino, arrivo subito. Via. Eccomi, eccomi, mi, ma lo senti? Si vede la TV alla luce. Oh, io gli ho PMR. Ho chiesto a Claudio se valeva ancora la nostra monitor LPD. Mi ha fatto capire di sì. Se dobbiamo fare qualche battuta così, o quando siamo fuori. Ah, a proposito di LPD, di cosa? Ho Natalie. Io quei due, ho due antennini già di quelli da 14, c'è uno con la SMA femmina e l'altro maschio, ma io sto aspettando altri due antennini, quello da 19 e quell'altro da 14 che ho pagato solo 2,15 euro. E non arrivano mai, non arrivano mai. Ma quando mai devono bloccare alla dogana un micro pacchettino? Non lo so, a me questa dogana italiana mi sta così sulle palle che non è un'idea. Lì c'è la peggiore dogana d'Europa, è la più pignola, cerca di guadagnarci da ogni pacco possibile. È uno schifo, guarda. Poi infatti rimangono un mese in dogana, lo sai, cioè dal Cina all'Italia ci mette 3 giorni, ho controllato. E poi dalla dogana a casa ci mette un mese, certe volte anche 2 mesi sono passati, lo sai. Perché magari hanno tanto lavoro e fanno piano piano, dove arrivano arrivano, compreso. Avranno i magazzini pieni. Purtroppo le cose che vengono al di fuori dell'Unione Europea vanno in dogana, invece quelli all'interno dell'Europa, compresa la Gran Bretagna, il Regno Unito che è uscito, però ancora c'è il rapporto lì, no, non paghi la dogana. Vabbè. Comunque guarda, con questa Europa unita è comodo ordinare dei paesi. Perché ho ordinato da Germania, ho ordinato dall'Inghilterra, dalla Spagna, dall'Austria e dalla... come si chiama quello? No, Estonia, Lituania, Lituania, anni ho sempre pagato, la roba è arrivata in fretta. Se avessimo dovuto pagare in lire, senza l'Europa Unita, avremmo pagato in lire e avremmo trovato la dogana per tutti i paesi dell'Europa, lo sai. Cioè, anche se compravi in Francia, dogana, e ci passava un mese. Però per il resto ci ha trombati alla grande l'Europa Unita, altro che... Rientrare sono lì. Cosa fai? Sono in Europa. Stavo parlando di dogana, pubblico, lo sai cosa ha detto il generale Pappalardo? Noi non abbiamo chiesto soldi in prestito a nessuno, ma era Prodi a farteli dare. E bruciava tutti a dito. Chissà in futuro se durerà questa Europa unita, o se unita alla fine non è unita, perché quando c'è i migranti da smaltire, l'Austria non ne vuole, quell'altro non ne vuole, capito? Farabutti Zurzo. Ma io avrei messo il blocco navale, non avrei fatto entrare più nessuno, manco un rubiglietto, se non sei in regola fuori ai coglioni. Ma non si può fare. Quando arrivano con i barconi o li fai morire in mare, e non si può perché sono esseri umani. Capito, Anzali? Alla fine tu vorresti fare come fa l'Austria e tutti gli altri. Purtroppo noi siamo zona di mare, è un macello. E come fai a fare un blocco navale largo 1000 chilometri? Come si fa? Già si fa, mica navi hanno il radar, mi. E ti vedimi. Ma anche il gommone è fatto di gomma, vedono. Tutto vedono. Abbiamo gli aerei che pattugliano, abbiamo tutto. Che cazzo, invece di andare a aiutarli, a cannonate li devono prendere. Non dico di colpire il mezzo, sparagli davanti, che se ne tornino al paese loro e non ci entrino. E li vuoi vedi? Macello, Caro Claudio, mi. Aspetta, non parla più adesso. C'è Pompugno che vive in PMR. Tu vive in PMR, è una cosa che non si crede. Sempre di gufi mi devo pure far costare, non è possibile. Vabbè Giulio. Vabbè, dai. Andata mio, queste parole così colorate. C'è gente qui a casa, ma non è possibile, dai. Natalino, a te Mussolini ti fa un baffo, eh? Mussolini aveva fatto le leggi razziali, gira, eh? Mi piacerebbe anche a te. Io non sono un razzista, capito? Però ognuno a casa sua, aiutali a casa loro, non qua. Che li mandano tutti a farsi fottere in casa di loro. Anche quelli che sono in regola qua, fuori tutti ai coglioni, via! Giulio, le cuffie ce le hai? Già ce le ha, se no... Poi cosa ho detto di colorito non ho capito. E te bara, stavo cambiando. Nulla, stiamo parlando dei migranti, che è Natalino è molto più radicale rispetto a me. Capito? Perché i cari paesi confinanti, no? Quando dobbiamo un po' smaltire questi africani, l'Austria non ne vuole, quello non ne vuole, capito? Solo noi in Italia ce li dobbiamo tenere. Troppo comodo, allora che razza di Europa Unita è? Se ognuno pensa allo scorso suyo, alla sua pellaccia, cioè me. No, lo sai cos'è? Non volete gli immigrati, ma oggi non ci sono più in Europa, andate a farvi fottere, siamo qui tutti pura. Andate, non ci passate neanche qua in Italia, se no vi fuciliamo. Piace 9, stavo a prendere la finestra, avevo un cane, no, che era morito. Liscio Maria Gara. Natalino, non si può fare, non è costituzionale, non è umano. Ma chi se ne frega, io non sono umano, io sono italiano e buh. Magari scopri un giorno di aver avuto antenati nordafricani, ah? Sono un trisnonno. Ti facciamo fare la fine di quelli. Manco per le scatole. Per non dire altra cosa, se no dice che sono colorito parlando. La mamma cuva vita liberamente, si buco. Tra un poco si chiude tutto il naga e basciami. Mi sa che prendo la moletta domani e taglio tutto. Sì, sì, ma Natalino, sei maleducato, sei sboccato. E allora non parlo più da oggi, dato che non sono ben accetto. Breccade. Avanti su Breccade. Buonasera a tutti, cacco. Mi sto ascoltando da un po', ma cacco, di tutto avete parlato. Natalino è un po' estremista, diciamo. Ciao, Robè. Perché c'è anche Claudio, Capri 2 in pare è chiuso. E un po' di varie cose per passare la serata. Vai Claudio per Roberto. Ciao Roberto, Roberto entra alle 8 di sera, io fra un pochino chiudo, vado a cenare. Ti ho portato il cane, stava più vigilando quella pioggia leggera, leggera, leggera, fine, fine, fine. KK. Direi che non è bene accetto, Natalino, oggi guardate di vaghine, ti viene in incubi. Io vabbè non c'ero, mi sono allontanato. Riprendi, vabbè, vai per chi vuoi. Ok, buonasera a tutti, fate da bravi, andate tutti d'accordo, che il mollo è bello perché è vario. Ma dice che sono troppo colorito, che si devono mettere le cuffie, e allora non parlo più e faccio prima. Dai, non prendete Natali, dai. Ricordati Natalino, Allah è grande. È colorito, hai tu colorito, è colorito ed è estate. Estate. Vabbè che tu sei carangione scura, quindi sei sempre colorito, ma sei anche un po' arrosolito. Che certi americani bianchi, bianchissimi, no? Hanno scoperto, facendo esami antropologici, di avere radici tipo africane, cioè di avere una piccola percentuale di DNA di antenati africani o indiani d'America, lo sai? E non sapevano nemmeno di averli. Però facendo una, non so, un esame del DNA, roba antropologica, hanno scoperto di avere sangue di vecchie popolazioni, che ne so, africane o coccio, capito? Addirittura, io stavo guardando quel programma di, del praticamente, non Quinta Colonna, l'altro, c'è un bel programma di emigrati, che in pratica quelli che sono riusciti a rimanere qua in Italia stanno frequentando anche le scuole, ma hanno fatto vedere anche oggi a Cagliari, Cagliari-Oristano, insomma ricordo che c'è il ministro Minniti, ministro dell'interno, ci sono africani che ne hanno intervistato uno, parla molto bene l'italiano, c'è una decina d'anni qua e sta studiando qua. Vabbè, lì tra Cagliari e Nord Africa siamo lì, dai, è tutt'uno. Vabbè, non farà piacere a Natalino, però ti posso dire che qua vicino a casa, alla 12, dove mia figlia ha fatto tutte le elementari, e qua proprio alla 12, praticamente tra via Follanini e via Carbonazzi, tutte le mattine, io pensavo che addirittura avessero fatto un centro per immigrati, invece no, ci sono tutti questi immigrati, maschi, femmine, gente di colore, che frequenta la scuola, capito? Ho fatto una scuola proprio per immigrati, ci sono le maestre, imparano a chi non sa scrivere e leggere, impara a scrivere e a leggere, mentre gli altri parlano anche la lingua italiana, imparano la lingua italiana, capito? Insegnano proprio a parlare la lingua italiana. Io pensavo che era un centro, invece mia moglie mi ha detto che è una scuola per i migranti. È duplice. Eia. Eia. Vabbè, almeno se imparano l'italiano possono integrarsi meglio. Poi ci sono certi o arabi o africani, gli arabi non ne parliamo, capito? Che non imparano una parola italiano o cinesi anche, che se ne stanno sempre solo tra cinesi in quartieri abitati da cinesi, tra cinesi a parlare cinese, quella non è integrazione. qua diventa un ghetto cinese, eccetera. Io mi ricordo tanti anni fa, ma non solo, tanti anni fa, anche tuttora, certe volte chiedi a certi cinesi se hanno una cosa, non capiscono niente, capiscono poco niente, forse lo sono appena arrivati, soprattutto giovani. Ma fini minnira, che ci avevi tutti mandati a rubare i suoi, qua nessuno ci vuole, fuori dalle scatole, via. Si vogliono gli soli, si le dà di riso, si è arruinati, si ridà alla cittadinanza, buru. Non solo, fra un po' introdurranno per gli emigrati, a favore degli emigrati, ma poco ci manca, lo Ius Prime Noctis, dove l'emigrato, o l'immigrato, come vuoi chiamare, si tromberà tua moglie, le mogli di tutti. Te lo ricordi com'era quella cosa medievale? Il re aveva diritto di trombare la moglie, la novella sposa, capito? La prima notte di nozze se la trombava il re e non il marito. Ah, fra poco la fanno per loro questa legge. E sto bien attenti, sai che ti pento macco e comincia a caricare i miei noghi e ne ammazzo un poco. Comunque Natalia, a parte gli scherzi, mi segui? Io già ti seguo già. Se no me ne vado in Russia e faccio prima, almeno ragiono come Putin io. Moschea, è moschea. E no che comando io, se non ti piace te ne torni da rete da onde sei giunto. Così bisogna fare. E vabbè, Putin già lo sappiamo che è un ex KGB, un fatentone. E cosa volevo dire? A parte di tutto, no? Qua sono venuti a abitare nel secondo sottopiano i neri, no? E ti dirò che erano molto più simpatici e più educati di certe facce di culo che ci sono nel palazzo, capito? Che tirano dritto, fanno finta di non vederti, capito? Molto più educati di molti del palazzo e anche più simpatici. Vai Roberto. Karin ci vuole. Hitler, rivoltore, al telefono Roberto. Ciao Peppino di Capri, riprendi. E tu una bomba a mano, una bella bocca di Trento, o due. No, così è inaccettabile, così ha ragione Natalino. Allora bisogna caricare un Mitra, no. Se ti hanno dato quel posto, ti hanno accolto in quel posto, ti stanno dando da mangiare, ti stanno servendo, perché lì io conosco perfettamente, perché la coissere era di Posadino, quella lì, ok, e quando è stata, quando c'è stato il fallimento, insomma, ha dato posto a questa gente, comunque conosco perfettamente, erano serviti e reperiti, capito? E in un contesto del genere avrei preso, aiuto tutti a casa, fuori, via, ognuno a casa sua, espatrio, via, non vi sapete comportare, allora via, fuori dai piedi. Facciamo una piena la domanda nella cosa, ma tu prendi, se tu sei un ospite ti devi attenere alle nostre leggi, alle nostre cose, se no te ne torni da dove sei venuto, ma non l'ho compreso io, no? Usiamo il Ciclone B. Ma non è quello, lasciamo perdere le cazzate, che sono esseri umani, però almeno si comportassero bene, cazzo. Non soffrassero le donne, tutti i furti, le rapine, le cose che fanno, ma vada qua, cioè le palle che girano a una velocità spaventosa. Oh Natalì, sai perché erano tranquilli qua? Perché erano senegalesi, questi qua sotto, ed erano tutti commercianti, gli arrivava la merce in scatoloni, avevano le macchine con tutta la merce dentro, capito? Invece i nigeriani sono brutte bestie, droga, prostituzione, violenze, capito? Tipo quelli del corso, tutti spacciano, tutti questi nigeriani, e non solo. Sì, sono magnacci, tutti ragazzi, questi i nigeriani vogliono presi e allontanati, manco fatti entrare, perché sono tutti delinquenti. Quelli là già erano educati, se ne cazzo, erano più educati di me, se ti vidi. Tata, e questi qua sono delinquenti, so. I delinquenti, mandali via. Cosa te ne vai, no? Marco ha ragione, perché gli africani e i senegalesi sono molto più tranquilli, i nigeriani sono cattivi, le donne nigeriane sono tutte prostitute, hanno un modo di vivere molto, molto diverso. Guarda, te lo dico perché mio cognato, il supervisore della SAIPEM, del gruppo Snap Progetti, AGEP eccetera, quando è andato in Nigeria, perché ha girato il mondo, e si è spaventato, loro c'erano il campo attrezzatissimo veramente, i container tutti abitabili eccetera, con l'aria condizionata, bagno. Ma sai cosa facevano queste la notte, le donne nigeriane? Andavano al campo, saltavano la rete, perché tutto recintato, addirittura c'erano anche le guardie armate, perché insomma l'accordo era quello, per custodire bene il campo e far sì che andavano la notte a provocare gli italiani per passare la notte con loro, capito? E la mattina quando il campo praticamente era, non c'era nessuno, che erano tutti nei cantieri, nei vari cantieri, perché uscivano con le jeep e c'erano anche chilometri da fare per raggiungere i cantieri di lavoro, mio cognato due o tre volte gli hanno aperto il contare e ne hanno rubato tutto dentro. E sono nigeriani, capito? Mentre addirittura c'era manovalanza senegalese, capito? Sono rientrato io. Perché i senegalesi lavorano, ne conosco uno che viene sempre, quando io andavo lì via Giovanni Pascoli al bar a trovare quell'amico mio che ha la sedia a rotelle. E c'è questo qui, ma tu lo vedi lì, cazzo, lavora, cazzo, è educato. Io ogni tanto gli faccio le battute nella lingua sua, gli dico, tu sei broscio, sì. Cazzo, perché lui mi diceva che io uomo brutto, no, io sono uomo bello, tu sei anche finocchio, gli dicevo, nella lingua sua, attaccava a ridere, ma togumi. Sì, i senegalesi sono sempre comportati, anche gli africani, ma i nigeriani sono cattivi. Avanti Robert. Sì, scusate, non ho sentito la conversazione, ero al telefono. Di cosa state parlando? Un po' di roba nera. Ah, abbronzata. Allora, Capri, fai sentire il 7B a Roberto, a vedere se le piace. E con che radio lo stai usando? Già ti fai sentire. Io invece sto usando un altro microfono, non so se ve ne siete accorti. Sempre lo stesso è la modulazione per me. E il coso, la Dunis è questo. Ecco, sono te l'avevo regolato io. Questo lascia questa regolazione perché è uguale al MC60. Sì, infatti non l'ho toccato, una volta che coso lo lascio stare così, non mi sono mai ascoltato, comunque mi stai dicendo che va bene e mi fido di voi. Capri, mi hai detto tu stai usando un SBE e con cosa? Non ho poi capito con che baracchino. Cioè, ma tu non ne hai uno per la mattina, uno per la sera, uno per la colazione e uno per la cena di baracchini. Ogni giorno ti sento con un baracchino nuovo a te, già. Non mi piace per ora. Catalina ha nominato il Sharin. Mamma mia, roba brutta. Comunque il più potente è il coso, è il VX è terrificante, perdura per giorni, dice che filtra attraverso le pareti, non c'è scampo, è il più puzzinoso, il più difficile da togliere. E se vuoi sopravvivere ti devi fare una siringa di atropina per bloccare il veleno e poi un'altra siringona grossa di, come si chiamava quell'altro farmaco, serve a riavviare l'enzima acetilcolina serasi che invece è rimasto bloccato per via del nervino, roba brutta E dice che i russi hanno fatto un nuovo gas nervino, che più che gas è una specie di polvere e si chiama Novichok, non è rilevabile dai sistemi di rilevamento NATO, un'altra cosa terribile, ed è in due componenti che una volta uniti diventano letali, per carità. E che dobbiamo fare la guerra chimica? Ma un po' di sarin glielo potevi buttare, almeno li terminavi. Oh, a parte che io ho la maschera antigas a casa, lo sapete? Non dirlo a me, io ho questo conto. Io ce l'ho proprio ufficiale, come si chiama, omologata, è militare, con tutti i coso di ricambio, la crema da metterti nella faccia, nel viso, in modo che non entri proprio per aderire, una specie di pasta che si mette per aderire nel corso. Allora, ho fatto fatto anche un video, un film mi hanno fatto fare a me, un amico che fa cinematore, dai, che ha fatto un film sugli extraterrestri e cose del genere, è venuto a casa con delle luci, ha portato delle luci dove c'è la stazione radio, ho acceso tutte le radio al buio e faceva, sembrava un'astronave, lui ha messo degli effetti e cose del genere, e mi ha messo con la maschera di lì, tutto con le luci in penombra, è una cosa allucinante. Ma io c'ho la Glock 17. Che maschera è la M50 e qualche cosa o la M90? Non lo so, guarda, dentro una custodia grande, c'è un sacco di roba dentro, c'ho i carboni attivi di ricambio, completami, ti copre tutto il viso completamente. Sì, sì, eia, ma tu l'hai usata dal militare, perché ma è molto bella la M90 che hanno attualmente i nostri soldati, ed è fatta dalla AeroSecur, non ne vendono ai civili purtroppo, se no me la sei già capata. Io invece proprio di NBC, maschere NBC, a parte quelle industriali che vanno già bene, ho la OM90 dell'esercito cieco, quella attuale, e c'è anche il tubicino per bene a circuito chiuso dalla borraccia. Molto bene, io ci sono già preparato in caccia lì. No, la mia è russa, anche la mia c'è il tubicino e c'ho anche la borraccia io per bene. E tutta quanta proprio militare, c'è cioè un oggetto militare comprato, portato dalla Russia questa. Non sarà la PMK, la GP7 può essere un modello PMK pure, c'è non bene mi roba, c'è non bene. Ho visto uno che fa collezione su YouTube, ma ne ha decine e decine, cioè io non è per collezione, è giusto per il non si sa mai, attentati, boh. Molto importante il filtro della maschera, perché la maschera senza il filtro non è niente, capito? Ci sono filtri civili, filtri NBC proprio per guerra chimica, ma costano anche poco quelli che ho trovato io, sempre li fanno in Repubblica Ceca, ma sono proprio eccezionali, No, vabbè, dipende tutto da cosa devi fare. Naturalmente per il batteriologico non c'è niente da fare, per la nucleare non c'è niente da fare, solo per i gas e per le polveri, vabbè, però se sono cose batteriologiche non esiste maschera, a meno che non c'è quelle sterili, chimisterili, quelle ermetiche con l'aria dentro, tipo quelle degli astronauti, solo con quelle puoi fare, ma è inconcepibile. C'è anche il visore infrarosso, avevo preso io tanti anni fa, è una bomba, devi vedere questa, è proprio tipo una cinepresa, non è un cannocchiale, è una cinepresa a infrarosso, ma tu c'ha una definizione allucinante, tu devi vedere verde dentro quando ti illumini con questo, c'è un pulso, una specie di pulso, come non puoi, grilletto, chiamano le vecchie cineprese degli anni 60, anni 50, che c'hanno una specie di grilletto, questo qua filmi come una cinepresa, è vero, ma tu in buio assoluto, se c'è appena di luce diventi cieco, infatti non si usa la bruci, però io l'ho provata di notte in posti dentro per dei garage che non ce n'è, buio completo, tu devi vedere la definizione di questa cosa. Eia, ne avevo provato uno di prima generazione russo, quando erano arrivati anni fa i russi a Sassari, c'era una roba sicuramente fregata all'esercito russo o polacco. Eia. Guarda, a dire il vero, i filtri P3, quelli a vite per le maschere antigas, diciamo bloccano anche i virus, dovrebbero bloccarli, praticamente bloccano tutto ciò che è più grande di 2 nanometri, i virus sono più grandi di 2 nanometri, possono essere 5, 10, 15, in teoria dovrebbe funzionare, però sai, in effetti quelle sigillate con l'aria che tu dai, adesso non mi viene in coso, sono le più sicure. E ha pressurizzato, dai, stiamo monopolizzando, avanti chi tocca, vai qui Claudio, poi fai girare per gli altri. Sì, sì, ma mi piace ascoltare, intanto non intendo di queste cose. Vai Nathalie, tu che sei armiere. Ah, io ho la Glock 17 e anche la 70. Ciao Capri, ben sentito, alle prossime. Ciao Peppi, ci sentiamo. Vai Marco. Ciao Capri 2, dai, ci sentiamo. mettiamo un po' per uno, ah, facciamo un soldato perfetto. Natalino mette le armi, io metto le maschere, Roberto mette le attrezzature e visioni notturni, Claudio cosa ci metti? Ah, mi è rimasta una cassetta di contattori usati, visibili, mette bombe a mano, così qui a cabo. Oh, a proposito, c'è anche il metal detector, lo possiamo usare per le mine, quello. Anche, eia, metal detector, è vero, chi ce l'aveva taglio, dice, mi crode, mi fa, che andava sulle spiagge, mi piacerà se trovava roba, monete, catenine. Allora, a cattone, che no, la verità, quando me l'ha raccontato, io mi sarei, cioè, non mi sarebbe piaciuto farmi vedere cercando roba, mi sarei vergognato a farmi vedere, e poi dico, la gente lo dice, mi fisso a cattone, no, non mi piace, almeno finché sono visto da persone non mi piacerebbe farlo, poi vabbè, si è isolato il posto. Oh, adesso vi racconto, la Platamona, adesso non sono da qualche anno che non ci vado, quando ci scendeva la Platamona, che avevamo la casa di lì, c'erano questi due tedeschi, marito e moglie, credo, non so se erano sposati, grandi di età, avevano avuto una sessantina d'anni, ne avevano due professionali, ma delle bestie, tutte le sere, quando tutti andavano via, prima dell'imbrunire, si facevano tutto il pezzettino dalla spiaggia, dalla torretta fino a verso Punta Bianca, e anche oltre, lì cercavano, andavano e tornavano. Ogni affento però, dai, ma vabbè, è anche un divertimento, e certo, non lo escludo, però io non c'ho la faccia di, non c'avevi la faccia, come ha fatto Antonio, di farmi vedere, cercando la roba per salvare gli altri, no. Vabbè, non sei chi sei, può essere anche il tuo lavoro, stai cercando qualcosa, non lo so, tu non aveva trovato delle belle cose, a parte gli scherzi, adesso non faceva così per visto per divertimento, ma aveva raccontato, aveva trovato una bella, una moneta antica e di un valore anche abbastanza alto. Io l'avevo vista, lui mi ha detto così, io ci ho creduto, perché sennò non era una persona bugiarda. Tante altre cosette, capito, catenine, braccialetti, il problema è che praticamente non si attaccavano l'euro non si attaccava. No, ma non è una calamita, però in quanto metallo dovrebbe rilevarlo, poi l'euro ha due metalli diversi, bene o male uno lo deve rilevare, o sbaglio Roberto? No, li puoi escludere, allora, ci sono tante funzioni, questo almeno lì c'ha diverse funzioni, puoi fare solo per l'oro, per l'argento, per il ferro, nel senso materiali ferrosi, però se metti materiali ferrosi esci di testa, perché anche per dire a 40 cm sotto c'è un pezzo di lattina, un tappo di ampulla e si mette a suonare, devi escluderlo, devi mettere solo l'oro e basta. Caspita, addirittura puoi fare la ricerca selettiva, minchia, ero rimasto un po' indietro io, Sì, Marco, quello di Antonio era così, potevi selezionare, capito, però Robe, quello c'aveva Antonio, c'aveva anche il sistema praticamente di adesione, come si può dire, tipo calamita, capito? Oh, non lo so, non lo conosco. Quello mio non è subacqueo però, è cosa, perché sono quelli più belli, sono quelli subacquei che puoi entrare in acqua, per dire se c'è delle zone dove sono cadute delle navi affondate e cose del genere, io conosco gente che ha beccato delle cose, però subacqueo. Subacqueo, ma se sa subacqueo, non sono subacqueo io, subacqueo è la bappera. E poi a proposito di gas, ieri sono andato da qua vicino, dal cognato di mio cognato, ci sono ancora in vendita le fialette puzzolenti, che sono delle bustine, dice che un bambino scherzando non se ne è accorto, l'ha toccata, siccome sono a schiacciare, e come le schiacci si aprono, se non fate tempo a buttarcela fuori, l'impuzione è già tutto nel gusto. Giulio. Vabbè, c'è Giulio, adesso non c'è più Giulio, adesso c'è il cognato di Giulio, il cognato di mio cognato, ma io non mi ricordo, una volta avevamo fatto lo scherzo a un ragazzo, non mi conosco, che avevamo buttato in macchina la fialetta, ma mi ha detto quelle di adesso è peggio, sono più puzzinose di quelle dei ragazzi di nostri, di quando ai tempi nostri. Ma le voglio comprare. Non ti servono a te, Marco, non ti servono, perché tu quando ti apri sei peggio della fialetta. Vabbè, radio già ne sa qualcosa. Sì, io non avrei bisogno delle fialette, però sai, quelle sono sempre disponibili. No, ci sto pensandomi, volevo fare qualche scherzo a qualcuno. Quindi sono addirittura più puzzolenti di quelle che usavamo noi da ragazzini, così è. Così mi ha detto, io non le ho profate, non mi interessa. Però siccome noi avevamo proprio la fialettina con la piccolina in vetro, ti ricordi? Adesso sono delle bustine, tipo, c'è presente la carta dei pacchi in regalo, che rimangono così argentate, che si sente qualcosa dentro, tu la schiacci, si sfascia, si rompe qualcosa che c'è dentro e ne butta fuori questo odore, dice che è una cosa schifosa. E poi c'aveva anche, ho visto, quelle tipo peperoncino che ti fa stannutire, la polverina per stannutire, cose che mi ricordano la mia infanzia. E infatti sono rimasto a bocca aperta, ma non sono roba fuorilegge, no, si possono vendere, mi ha detto. Mamma mia, basta che non sia mercaptano. Dice il mercaptano è la cosa più puzzolente che esista, ma è proprio da evacuare l'edificio, mi, il mercaptano. E secondo me è anche pericoloso. Mi ricordo tutto io, le fialette, il liquido congelante che lo mettevi sulla sedia e ti ghiacciava le chiappe, la polvere per stanutire, la polvere per grattarsi. Le caramelle cingomme al coso, all'aglio. Sì, però quelle erano banali, lo sai. Una volta l'ho assaggiata una e ti dirò, cioè, non era nemmeno vomitevole, era un po' banale. E vabbè, o al peperoncino, insomma roba piccante, banale era. Certo, roba un po' pericolosa non ne fanno per i bambini, come scherzi, se no si intossicarebbero loro con l'altro. No, è entrata questa signora, ma mi ha fatto così ridere. È entrata, scusate, gli ha detto, scusa, vendete dentiere? Io me la sono cambiata dentiere, poi ho pensato che eravamo in periodo del carnevale. E dove lo mettiamo? L'intramontabile cuscinetto per fare le scorregge finte. Vabbè che, come dice Claudio, anche di quello io non ne ho bisogno, perché sono autonomo, però era divertente anche quello. Quello di gomma, il primo modello. Esatto, ho capito, poi quello che fa il rumore della mucca, l'ho detto. Erano tutti giochini che da bambino rimanevi a bocca aperta, erano cose simpatiche. Però mi ha colpito che ho detto, cacchio, le fialette puzzolenti, io sapevo che non si potevano usare, che pensavo, anzi non sapevo, tipo con la polverina, lo stesso che fa stanno utile, pensavo fosse una cosa pericolosa, soprattutto con le leggi nuove, invece no, sono libera a vendita. Beh sì, è roba banale, alla fine. Così da, sì, non ne darebbero ai bambini, se no, mamma mia, ci sono le fialette. Comunque questo nuovo tipo di cose bisogna vedere come sono fatte, cosa c'è dentro. Magari ci sono due reagenti che come rompi una cosa, una fiala, si uniscono e fanno quello dove lì. Sicuramente è così. Ok, se c'è qualcuno antipatico ne butti una dentro la macchina o nell'appartamento. Nessuno c'è antipatico, classico. Forse è stato andato a mangiare o al telefono. Chi è rimasto qua su 10? No, Robert, scusa che mi sono tornato a bere un minuto e ci avevo la sette. No, hai capito che ho detto, se c'è qualcuno antipatico che non ti è simpatico, te ne prendi uno, o gliela butti dentro la macchina o dentro la tasca, vedi un po' tu. No, grazie a Dio non ho queste antipatie così pesanti, dai. Perché anche al lavoro, guarda, ce n'era uno a peggio di Marco. Io tutte le volte che andavo a prenderlo, che mi chiedeva, non sempre, in fine settimana capitava, lui doveva lavorare la macchina all'altro collega, e quindi qua mi aveva un passaggio, io ti sto avvisando. La prima puzza che prendo ti lascio a piedi, ti lascio in mezzo a strada, no, tranquillo, no, la teneva, perché un giorno l'ho minacciato, ho detto, Fara, scendi dalla macchina, manco i pulci, scendi dalla macchina, per favore scendi dalla macchina, no, scendi dalla macchina, le ora che andiamo a piedi, quindi, capito, perciò no, non ne ho problemi. Poi Marco, noi parliamo, si è permesso un giorno vicino a me, mamma di cani. Oh, claro. Tu. Ma tu a Ruspa già lo conosci? Sì, abbastanza bene. Tu, con quello lì è pericoloso, ma quello è pericoloso veramente. Un giorno poi ha fatto una figura di me, eravamo ragazzi, neanche sposati, cioè, ma per forse fidanzati eravamo in macchina con queste ragazze, quindi a lui ne scappa una, cacca, non manco Gaglia di Muto, scusate, si era una bella, ha fatto una figura al giorno. No, ma l'ho sentito anche una volta in officina da te, ma rumoroso, bello. Intanto mangia solo pasticci lui, patatine, caramelle e cose del genere, non è tipo che si fa un pranzo di coso normale, lui sta sempre mangiando i frigorosi, adesso sono da diversi mesi che non lo vediamo, perché la barba è già stata quanto in verticale la storia. Claudio, io cosa mangio? Cioccolato, coso, noci, castagne, tutte porcherie mangio. Oi, genio, ciao, buonasera. Ma infatti, ma ho ritrovato per quello. Capito, può capitare che uno abbia una cosa così, però, mamma mia, ce n'è. No, ma questo collega ha la paura. La paura, gli ho detto, se ti siedi in macchina con me. Guarda, ha fatto da sorso a Vindalba che non ce la faceva più. Come è arrivato a Vindalba ha cominciato a scaricare, guarda, anche i piccioni sono volati. Avanti oggi. Marco Condo. Io te l'appoggio. Mi. E io te la spingo, parola di Cristo. Sta parlando adesso un attimo. Cosa ha detto Eugene? Allora, lui ogni tanto c'ha questi problemi di aria. Però lo prendiamo così, dai. Ciao Antonio, buonasera. Riprendi e fai girare. Sì, ciao a tutti, buonasera, bella scucciti. Ciao Antonio. Ciao Antonio, finalmente sei entrato. Sei iniziato a c'è in PMR. Purtroppo io non l'ascolto. C'ho un QRM elettrico a Santiago 6. Eugenio non l'ascolto. Ciao Eugenio, se mi copi, dai. Ciao Eugenio, portatore. Ciao Eugenio. Sì, laboratore. Ciao Eugenio, ben sentito, dai. Avanti gli altri. Ciao Eugenio, ciao, le prossime. 5758 qua. Avanti Natalia. Ciao Eugenio, se mi ascolti. Ma chi ti ascolta a te? Chi ti ascolta? Lui ascolta a tutti comunque, Eugenio, a tutti che ci ha sentito. Vai e bocchi di due. E gli ha detto ciao Natalie, Marco, hai visto, arriva meglio lui di te. Riprende e fai girare. Però io vi saluto, io sono 9:20 ragazzi. Parlate anche troppo stasera. Ciao Marco, Roberto, Antonello, Natalino, Gianni Capridur per andare a mangiare, Eugenio, insomma un saluto circolare a tutti, dai. Ci sentiamo domani, è pronta la cena, ciao ciao. Sì, ciao, c'è un bel film dopo, infatti me lo guardo, che cozzalone, se vi piace. Sì, ciao Claudio. No, Carlo Galerubi, non l'ho visto, ho visto solo spezzoni, ma dovrebbe essere simpatico, a me mi fa ridere Zalo. Sì, lo vedo, bellissimo, guarda quello che è molto bello. Ciao a tutti di nuovo, buonanotte, a domani, bye. Ciao Claudio, avanti Antonio. Sì, ciao Claudio, ci siamo domani. Allora, come andiamo Marco? Oggi un pochino meglio, sono uscito, ho fatto commissioni, sono andato allo sciame, mi sono recuperato una giacca che avevo smarrito e poi mi sono attaccato al baracchino e ho sentito che eri in PMR. Allora ti ho detto, oh, mamma mia Antonello, te la sera lì, vieni un po' in 27, mandala al diavolo a Mario o chi era. Ah, sono andato a da lui stasera allo sciame, la verità, un po' di stella e poi sono rientrato, poi mi ha chiamato Pietro e dopo sono rientrato qua eccetera, ho visto che Mario non c'era più e basta. Ho trovato due spumanti in casa, lo sai, nuovi, ma uno è mancato gancia, l'altro è champagne, c'era tutto, è stato il culo. Antonio, dimmi. Ma tu questa PMR su che frequenza siete voi? Su che canale? 446 8 81 25, non ricordo male. Ah, quella di 446.81.25 081.25. Boh, io molte volte accendo non sento nessuno. Ma oggi ce l'avate stasera? Tutto il giorno c'era la gente. Io sono 25, c'è la giornata, ma forse è così. Mentre l'EPD è 433.075. Esatto, sì. E nell'EPD qualcuno lo sento, ma in PMR, pochissime volte ho sentito gente. Sì, Robert, ti dirò. Spesso entrano dalla Terolce, vabbè, qualcuno ha l'antennino portatile, sai, perché parlano tra di loro, sono più vicini, non tutti usano l'antenna esterna e non tutti usano watt consistenti, dai. L'altro giorno c'era Giulio, ho sentito a Giulio, cacca, arrivava una bomba qua da me, e Giulio lontano a me, e lì c'era col gommino lui. Ma se una volta ero a Porto Torres, ero, e stavo parlando con Pomponi, o mi chiama Claudio, Forno Scala, la Forno Torres, non so cosa ti possa avere, cioè PMR, per modo di dire, c'avevo lo IESO 2008, antenna veicolare performante, poi non so se avessi 35 watt. Ah vabbè, non sono i 500 milliwatt allora. No, se noi dovessimo usare 500 milliwatt non arriveremo in città, da dentro casa, da qui a 100 metri, no. Non è fattibile, non è fattibile. Certo, uno lo sa e si piglia la responsabilità nel caso, ma nel frattempo tutto tace. Non credo gli interessi alle scopposte nemmeno. Finché stai lì in PMR, certo se sconfini in altre cose. Bene, bene. No, vabbè, qualcuno utilizza anche, adesso magari no, ma tempo fa c'era qualcuno utilizzava i canali civili, dove per dire le frequenze civili, per dire quelli che usano l'Enel, quelle cose, la CIL, quelle cose, quelle frequenze lì, ci mettevano a parlare su quelle frequenze. Sì, anche il continente, ne sentivo sul forum, parlavano su ponti anche amatoriali abusivamente, su ponti civili. Io mi ricordo, tanti anni fa, si parla degli anni 80, fino a 80 inizi 90, che anche a Sassari c'era la graffetta di CB che se ne andavano a 146 MHz, era il punto di ritrovo, si quando sentivano il soggetto di turno, mi è entrato lì, cioè io a pigliarlo qua d'uguro, capito? 146 MHz, mi ricordo, anche radioamatori c'erano, attuali. Che allora facevano i pirati e adesso sono radioamatori e fanno la romanzina magari agli altri, no? Abusivi. Catarino c'aveva un linea a 3 kW e andava a disturbare le trasmissioni delle cose dell'aeroporto. Qua, proprio quello io non l'ho mai fatto assolutamente, andare a rompere le scatole a nessuno. A nessuno. Quando è un paio d'anni fa quello della zona di Cagliari a Hermans, che poi l'hanno, non riuscivano a beccarla, alla fine hanno beccato, cioè aveva un lineare da 1 kW in macchina e andava a disturbare gli aerei ed era un mezzo radioamatore questo. Mamma mia! Oh, poi c'è gente, robè, che se ne andava anche in banda marina a parlare da casa, con apparecchi in banda marina, e lì sono più delicate le cose, finché sono frequenze apparentemente vuote, che sai che non senti mai parlare, anche lì è un rischio. E vabbè, comunque sì, 146 MHz, un po' tutto, dai. Poi vabbè, ci sono persone che lo fanno con, cioè sanno che è vietato, ma tanto non succede niente a breve. Ma ci sono persone che non hanno idea, cioè accendono la radio e parlano dove sono, parlano. Anche cacciatori, si pigliano i Baofeng, poi accendono dove sono, parlano tipo 462, e vabbè. Va bene, peggio per loro. Purtroppo c'è molta ignoranza, non sanno le frequenze consentite, cioè, vabbè, a parte che non puoi usare quelle potenze lì. Io ho sentito di questo tipo, siccome la legge dice che tu non puoi superare più di una certa potenza, l'apparato non deve avere antenne amovibili, devono essere le classiche antenne monoblocco con l'apparato. Questo lo sai cosa ha fatto per aggirare l'ostacolo e nessuna legge glielo può vietare. Ha preso il portatilino, diciamo, il PMR, l'ha preso, l'ha messo in alto a un'antenna, in un palo di antenna, per dire a 5 metri, quello che era, proprio in cima al palazzo, dopodiché ha preso un comando, un cavetto, che comandava il microfono lui, il PTT, e il ricevitore sotto, un altoparlantino per ricevere. E lui dice, io sono nella legge, perché l'antenna è in alto, a 5 metri di altezza l'apparato, io non sto modificando la potenza, e lui parlava con tutti quanti, con questo sistema. Sì, sì. E d'altronde se sali sul terrazzo di qualsiasi palazzo abbastanza alto è un bijou, arrivi a Porto Torres anche, forse, non lo so, con 500 milliwatt, no vabbè, però credo che entro la città, da terrazzo a terrazzo, proprio io sto parlando del tetto, già arrivi magari. Ci avevo pensato anch'io, lo sai, mettere su un paletto il portatile, poi ti danno l'auricolare di cuffia che certo non è lunghissimo, ma puoi fare qualcosa di più. Ah, ti volevo dire, Robè, invece hanno fatto da poco, un anno e mezzo fa, hanno fatto un veicolare PMR, cioè con 500 mW, 8 canali, e un antennino, un quarto d'onda UHF veicolare, e il cavetto era un RG174 saldato proprio dentro il veicolare, cioè non c'era lo spinotto, non lo potevi rimuovere, andava proprio da dentro l'apparato all'antennino, quindi non era estraibile comunque l'antennino, no? L'ha proposto la Midland, si chiamava Midland GP1, Golf Bravo 1, beh, non gli erano omologato, non gli erano omologato, perché secondo loro allora dovrebbe essere portatile, non lo so. Invece in Germania c'erano i portatili col cavetto, sempre fisso, fisso non estraibile, col cavetto, e poi un antennino lungo 14 cm. Ma sarebbe un 4 d'onda UHF giù di lì, dai. No, ma io nel mio, io ce li ho i due PMR omologati, tranquilli, quelli della Brun, mi sembra siano Brunvi, non lo so. Esiste proprio, cioè il progettino semplicissimo, che tu lo apri, togli l'antenna sua, li metti un connettore a pannello BNC e poi li fa attaccare l'antenna esterna senza fare nessuna modifica. L'ho già fatto, io sono a metti 50-50. Poi andava male, sai perché? Presto spiegato, perché l'MT 50-50, mettendo quell'attacco HMA, non era a 50 ohm, l'apparato non era a 50 ohm, quindi se tu li mettevi un'antenna a 50 ohm, proprio centrata, perché ne so, per il Baofeng, per tutte le apparecchie a 50 ohm, ti dava due di stazionarie. Vabbè, due sei ancora nei limiti, l'importante è se non superi più di due. Due, diciamo, c'è un po' di rientro, ma non è così grave avere più di due. Anche qualcuno lo tollera, anche qualcuno di più. Dipende naturalmente dal tipo di apparato, perché sono quegli apparati che sono sottodimensionati, che scalano, ma diciamo due di stazionarie non è gravissimo. Quel problema è che in questo MT 50-50, scusa la voce ma mi si sta chiudendo il naso, mettendo l'antennino che tiravano loro, questo flex, riceveva peggio dell'originale, proprio non c'era niente da fare. Allora cosa ho fatto? Ho disaldato questo attacco SMA e ho rimesso l'antennino originale e tutto è tornato un bijou come da di fabbrica, c'è niente da fare. Andava male, invece forse in Midland risuonano a 50 ohm, quindi dovrebbero andare meglio, però quello dico, quello nego. Boh, non lo so, di questa situazione non lo sapevo, cioè mi stai dicendo delle cose tue, non lo so. Normalmente sono sempre a 52 ohm forse di questi apparati qua, non so se ci sia qualche cosa fatta apposta per non modificare. Sì, perché io collegavo il centrale ovviamente dove c'era l'antenna, poi dicevano tutti i siti, tutti, di saldare il negativo, aspetta, dov'era il negativo? Mi pare una massa, era una specie di schermatura di metallica fatta di latta, lattina, quello che è, no. Vabbè, non andava bene, proprio riceveva tutti più bassi, col portatile ricevevo meglio, col gemello MT 50-50. E allora ho tolto tutto, ripristinato come di fabbrica, infatti è migliore adesso. Poi ormai non usano nemmeno più i PMR modificati, perché tutti hanno il Baofeng, 30 euro e c'è un apparecchio che fa tutta la VHF, con 4 watt pure. Ma funzionano bene, ne ho sentito parlare di questi, ma vanno bene come apparecchio. Aspetta, mi guarda, Pomponio me l'ha consigliato, l'ho preso uguale. Allora, Baofeng UV5R Plus, la versione Plus, la vende Robotrader, prende sempre bene, funziona sia con antenne veicolari che anche con antenne fisse, è un bijou, cioè per 30 euro c'hai, 30 o giù di lì c'hai un apparecchietto, cioè già più potenza, è sensibilissimo, perché è veramente sensibile, c'hai già l'SMA pronto, cosa vuoi di più? C'è una batteria che grande a litio, insomma, che non so sia da 1800-2000, se conti che in più all'UV5R li puoi mettere una batteria aggiuntiva da 3008 e ti dura secoli, è un bijou. Hai, scusa, vabbè, per quell'apparatino hai accessori di tutti i tipi, batterie di vario tipo, batter eliminator per alimentarlo alla prestazione sigari, cuffie di tutti i tipi, custodi di tutti i tipi, microfoni altoparlanti di tutti i tipi, cosa vuoi di più? È il più versatile in assoluto. Io l'ho preso da Robotraser a Torino, perché c'è una sede sia in Germania sia a Torino. L'ho pagato 30, tipo 33 massimo. Ok, no, non lo conosco, l'ho visto soltanto, ne ho sentito parlare, l'ho visto così nelle riviste, eccetera, eccetera. Costa poco comunque, qualità prezzo ottimo. Ok, facciamo girare un pochettino, vediamo che è rimasto. Natali, ci sei ancora? Sì. Io ho il GT3, quello c'ha 3 potenze, 8 watt. Sì, vabbè, questo GT3 è molto bello l'aspetto, c'ha fino a 8 watt almeno in VHF, magari in VHF ne ha 7, però, oh Nathalie, non so se tu hai avuto modo di provarlo, qualcuno si è lamentato che con l'antenna esterna viene assordato, si riduce la sensibilità, che sia veicolare, che sia proprio da base, si assordava in certi, o se eri vicino ai ripetitori, non lo so. Guarda, vabbè, ti dico una, io ho avuto un portatile sempre di questi cinesi, no? Dico la marca, il modello, era un TYT THUVF9. Questo volantellino andava bene, ma se li mettevo in auricolare, proprio azzerava il segnale. Per esempio era preda niente, no? Avevo lo scanner normale con l'antenna auricolare e ricevo tutti i radioattori, no? Stacco, attacco questo piccolo duopanda, boom, buio totale, proprio si azzerava la ricezione, è una cosa terrificante. Solo un antennino lo potevi usare, invece l'UV3R non ha, cioè l'UV5R non ha questo problema assolutamente, è un carro armato. Ma anche i GT3 ne ho due io, li ho provati e funzionano benissimo. Ma tu in macchina, per esempio, con che antenna li hai provati? Un'antenna abbastanza performante? Un'antenna esterna, cavolo, io ti pare che uso col gommino non intendo un cavolo, invece con l'antenna esterna gli dà la canzone. Ma tu dove l'hai provata l'antenna esterna, in casa oppure anche in altura? Perché le prove le ho fatte lì, guarda, c'era Gianni Rubiron di fronte, ho detto guarda, vedi, con ricevitore becchi i radiatori, eppure i radiatori escono anche bene, forti, attacco quel portatile e boom, sparita la ricezione, era una cosa incredibile, infatti poi è uscito di produzione, non l'hanno più fatto, era una hahata, robe. No, il GT3 funziona bene, c'ho anche una batteria maggiorata, se lo metto in uno diventa anche più grande l'apparato, è una bestia, ne ho due di quelli, infatti uno lo voglio dare perché cosa me ne voglio, mia moglie non ne usa, io l'avevo presi uno per mia moglie, uno per me, invece nulla. Io invece ne ho quattro da Parigi, più uno digitale e sono cinque, e due fu della Ico. Antonio, io della Icom ho l'ICU68, quello sale sino a 4,90. No, questi sono dei VHF e basta, Marichetti. L'Icom, anzi l'unico, Iaeso FT 411 e 2000, 144 e questo. Poi mi hanno regalato un Kenwood che fa VEU, quello ce l'ho qua, e lo sistemato, sono rimasto due UV5 VT Plus e due 888 della Boffa, portatili, 13 canali, 5 watt di uscita lo stesso, potrebbe avere, diciamo, il display non ne ha, la produce 13 canali manuali, però c'è sempre 5 watt di uscita, riesce bene lo stesso, è perfetto. Se li metti l'antenna esterna proprio a quello già si azzera veramente. No, non è assolutamente vero perché ho provato io. Col Bafeng l'ho non sento proprio nulla perché ho fatto la prova. Grazie a Dio non ho avuto mai problemi. Usandolo io, usandolo anche, addirittura usavo Giuseppe Lucino, la casa sua, ci va forte. stato fortunato, l'ho preso a stasera via Napoli, via Angolo, via Catalocchino, 40 euro, tutti e due parecchi, due portate, i due in una scatola. Ma non ce ne sono più di quelli? Non ce ne sono più, no. L'ho preso io, uno ce l'ha Mario Figine, ce l'ha, già lo conosci, e l'altro ce ne è rimasto a me, ce l'ho qua in scatola, col caricatore e tutto. E poi c'ho le due... Non ti perdi niente. Poi uno l'ho portato a Giuseppe, uguale a questo che è il V5, e esce bene la casa sua, e anche esce il viaggio è molto meglio del mio, o con me. Lo sai, Antone? Dimmi. Quel negozio, il Portobello, lo sai dov'è, vicino al mercato all'ingrosso? C'era stasera. Lì ci sono i cinesi vicino, e ci sono, li ho visti questi apparecchi cinesi, bellini anche esteticamente sono, ne aveva un paio. No, quelli sono portati molti tocchi, non c'entra niente, quelli sono uno o due vatti. Però quello che ho io c'ha 5 vatti, no? L'otto, me li ha programmati Marco, fatemi dire a Marco. Quanto sono forti, tutti e due, entrambi. Anzi, me l'ha detto lui, perché se ne ha accorto lui, c'è uno che è più forte dell'altro di tanto. No, Antone, quello che l'ho c'è scritto 5 watt, ma ne dà due, l'ho avuto e me lo sono prontamente venduto, perché è meno sensibile a parità di antenna, l'antenna in più è troppo corta, quella di serie. È un po' sordo lo squelcia, aprirli, un po' duretto aprirsi, quindi l'ho fatta fuori per quello. Guarda che usava Giuseppe mi sentiva a casa sua, poi non lo so. Io, sai, Giuseppe aveva questi qua, prima di comprare l'altro. Quindi io con Giuseppe ce l'ho qua, l'altro c'era Mario, e grazie a Dio Mario, la casa sua, la ricevita vecchia, mi senta lui, arriva a fondo sta l'acqua. Perché non è 27, se fosse 27 avrei fatto dire la vita anche da lui, perché Mario ci ha dato un boffè, quello portatile l'88, secondo me escono bene. Vabbè, di radio escono bene, grazie, però io non lo ricomprerei più, io l'ho avuto ma non lo ricomprerei più, anche se costa poco. Ora beh, io con Pomponi invece da un po' di tempo fa stavamo durando proprio in digitale, due portatili digitale vero, non con display digitale. Quelli con a me me l'hanno regalato mio cugino, lui lavorava in un'impresa esterna di quelle che facevano lavori tipo Enel e cose del genere, gliel'avevano dato, ma è una bomba, quello con la tastiera, non so se lo conoscete, c'ha tutti i tastini, sì. I classici dell'Icon portatilino, e mi sembra c'ha 5 watt quello stesso, c'ha due potenze, credo la potenza massima sia 5 watt, e c'ha nel frontalino c'ha tutta la tastiera con tutti i numeri, con un sacco di funzioni, c'è anche il codice eccetera eccetera, e poi sopra c'è il display con la frequenza, e l'antenna si può staccare. Puoi mettere anche l'antenna esterna o quella che vuoi. Tutti i boffetti che c'è l'antenna esterna che si può attaccare, quello che c'è io, anche l'88. Quindi, non so, vedi. Anda bene mela, adesso vado e c'è. Ci siamo fa poco, efficiente. No vabbè, adesso me ne vado, dai, anche io chiudo, dai signori, vi lascio, io vado a guardarmi un pezzo di televisione che c'è un film che lo volevo vedere. Ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Natalino, ciao Marco e tutti gli eventuali amici in ascolto sul canale 10. Ciao, cuoretti da parte mia. Ciao, vabbè, alle prossime, anch'io saluto a tutti e me ne vado, ci sentiamo alle prossime. Ciao Roberto, ciao Natalino, ciao Antonello. Antonello, buona cena, voi due buona visione TV. In effetti sono le 9:06, anche io vado a vedermi qualcosa. Poi c'è bello Gialone, mi guardo Gialone. Non tutti di Gialone mi sono piaciuti, Ok, e se no mi scelgo qualcos'altro. Ok, buona serata a tutti, là. Abbiamo parlato un bel oggi, dalle 6 in poi. A voglia. Ciao a tutti. E ciao, ma ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti. Antone, deciditi quando dobbiamo riprovare questo digitale. Se no me lo vendo davvero, mi. Devo provare adesso, aspetta due minuti. No, adesso me ne sto andando, io. faccio mai alle 11, to, alle 11, tra le 11 e 11 e mezza provo ad attaccarlo, proviamo se funziona ancora. Guarda alle 11, 11 e mezza. E ciao a tutti, ciao ciao. E ciao.